566. Più tardi ancora, cioè il cambiamento. Io parlerò vedo, di questo tema. Professor Giulio Mandic, di cui il tema della relazione è, scusami, ecco, è esattamente fiere, cambiarie e concorrenti. Il tema è interessante. Genovesi, fiorentine e veneziane nel trentennio 1622-1652. Quindi dopo la chiusura delle fiere di Piacenza. All'inizio dell'epoca tragica. Cioè, dunque, devo riconoscere che il tema da me scelto non costituisce una novità. Informazioni sulle fiere di Piacenza e di Novi già forniva Umberto Benassi nel 1915 e dopo di lui Onorato Pastine nel 1940. Io stesso, in un saggio del 1947, pur risalendo alle suddette fiere, trattavo di quelle cambiarie di Verona, proponendomi di ricercare se esse non avessero influito sulla riorganizzazione delle fiere di Bolzano. Di recente, in due volumi del 1969, le fiere dette di Bisenzone erano studiate dal professor Da Silva in un quadro documentatissimo di grande contenuto e di grande impegno. E allora, perché ritornare su vicende note? Ritengo che valga la pena di insistere su alcuni loro aspetti, mettendo soprattutto in luce come sono considerate queste vicende dagli organi pubblici e dagli operatori privati della Repubblica di Venezia. E infatti mi avvalgo in particolare di fonti inedite dell'Archivio di Stato veneziano, i dispacci ordinari dei rappresentanti diplomatici della Repubblica, residenti stabilmente a Roma, a Firenze, a Milano, a Genova, e le risposte dei cinque savi alla mercanzia, alle quali di solito si conformano le deliberazioni del Consiglio dei Pregadi, cioè il Senato. Le vicende vanno inserite sotto l'aspetto politico nel lungo contrasto fra il sovrano di Francia e gli Habsburgo di Spagna e d'Austria, sotto l'aspetto economico nella crisi generale del secolo XVII, che presenta chiari sintomi verso il 1620. Anche i momenti difficili, o proprio perché sono momenti difficili, gli operatori delle grandi case commerciali sentono il bisogno di speciali fiere, di soli cambi, distinte dalle usuali fiere di merci o merci e di cambi. Le sappiamo dapprima organizzate dai genovesi in successive sedi a Besançon nel 1535, staccandole da quelle di Lione. Vedremo che se più tardi con un opposto procedimento alle nuove fiere cambiarie di Piacenza nel 1622 e di Verona nel 1632 sono appoggiate coeve fiere di merci, tanto le une quanto le altre hanno una diversa organizzazione, con propri nomi, propri magistrati, propri fini. Io dovrei supporre noto, per ricordare queste vicende, il meccanismo non molto semplice delle fiere cambiarie. Vuol dire che in un secondo momento, rispondendo a possibili domande dell'uditorio, cercherò di illuminare qualche particolare. Riprendo il discorso partendo dal 1622, momento nel quale vengono istituite nuove fiere in novi e riorganizzate le fiere di Piacenza, le vecchie fiere di Piacenza. Il Senato genovese ha motivo di preoccuparsi nel 1621 e della situazione generale politica per la Valtellina e di quella particolare delle fiere di Cambi, da parecchi anni tenute normalmente a Piacenza. Nell'ottobre esso nomina una commissione per un ritocco dello statuto di fiera. Nel dicembre designa Novi come sede per intanto provvisoria dei futuri incontri di banchieri e nel gennaio 1622 approva per questi incontri alcune riforme dirette a ridurre il soverchio uso delle procure e a facilitare il pagamento con denaro contante. Immutate le norme che riconoscono una posizione di privilegio ai banchieri di Genova, dice lo statuto. Il magistrato di fiera sia di un console e di due consiglieri, cioè il console è uno dei consiglieri genovesi e l'altro consigliere milanese. Il trasferimento in Novi coglie di sorpresa vari gruppi di operatori stranieri, suscita proteste e spinge a ritorsioni. Il Duca di Parma si rivolge a Roma e ottiene che il cardinale Ludovisi scriva al doge e ai governatori di Genova. 22 gennaio 1622, per un ripensamento. Non manca nella lettera un accenno ad un aspetto giuridico, la consuetudine, eccetera. Come non manca il richiamo ad una conseguenza economica, le nazioni lontane, eccetera, eccetera. Io trascuro alcune citazioni. E neppure manca la insinuazione di una possibile condanna dei Cambi con Novi, non solo perché riducendosi colà la fiera non si farebbe più che una che da una provincia o da un dominio, ma per cagione della moneta che sarebbe la stessa. La risposta degli organi genovesi, indirizzata al cardinale Ludovisi, 30 gennaio 1622, è del tutto conforme a quella indirizzata poi al pontefice. e suona molto esplicita. La disciplina delle fiere di Bisenzone è sempre stata prerogativa di Genova. La scelta di Novi ha ragionevoli cause e degnissimi rispetti, e particolarmente affinché non siano impediti dalla lunghezza delle strade cittadini nostri d'autorità e gravità di andare personalmente nelle fiere ed intervenire all'amministrazione di esse et ovviare gli inconvenienti che talvolta si sono visti seguire. Più cauta è la risposta sulla legittimità dei cambi. Quando per avventura non restasse in sua beatitudine sospensión d'animo, il che non possiamo credere, la supplichiamo istantemente a darcene parte. Il Duca di Parma cerca un più diretto appoggio presso i banchieri delle maggiori piazze, i quali, avendo assunto obbligazioni per la fiera di febbraio 1622, sono costretti ad essere presenti in qualche modo a Novi, non però anche a ritornarvi per la successiva fiera di maggio. Vi è infatti chi subito prepara, nella stessa Novi, un progetto di statuto per riorganizzare ancora in Piacenza le consuete fiere di cambi. Ma nei fiorentini v'è discrepanza di opinioni, poiché i più ricchi, che hanno polso di sostentarsi, concorrerebbero volentieri a dar soddisfazione all'altezza serenissima, ma gli altri più deboli et obbligati con genovesi non assentono, perché dubitano della loro caduta se non sono uniti con loro. A Venezia i savi alla mercanzia, richiesti di un parere sul futuro delle nuove fiere di Novi, riferiscono che nella piazza si discorre che ogni nazione ancora vi concorrerà, perché tenendo essi genovesi maggior credito in fiera delle altre nazioni, fa di mestiero che ognuno vada per le loro mani. Comunque, anche aggiungono, i nostri negozianti poca stima fanno di andare più ad una che all'altra fiera, perché avendo nelle fiere il negozio pari così di crediti come di debiti, tanto torna loro conto andare in uno quanto nell'altro loco. Il maggior loro pensiero è di poter far i pagamenti così in oro come in argento nella maniera che possono far genovesi. Nell'aprile 1622 i fiorentini sono già d'accordo con i milanesi e pronti a trattare con i veneziani. La fiera del prossimo maggio è tenuta in Piacenza con uno statuto che ricalca in molte parti quello di Bisenzone, tolte le prerogative riconosciute altre volte ai genovesi, e con un magistrato che risulta composto di un console fiorentino, di un consigliere milanese e di un consigliere veneziano. In realtà, uno di famiglia Ott, tedesco, che si reputa come veneziano. Lo statuto viene approvato, oltre che dal cardinale Farnese per il minorenne Duca Odoardo di Parma, dal Senato di Milano, 11 aprile 1622, per Filippo III di Spagna, dalle reggenti il Granducato di Toscana, per il minorenne Ferdinando II de' Medici, dal Papa Gregorio XV, bolognese, e poi dal Papa Urbano VIII, fiorentino. Il Senato veneziano si sottrae ad un esplicito riconoscimento. Sentito il parere dei savi alla mercanzia, permette che nella piazza venga valutato lo scudo di Marche, la moneta delle fiere di Piacenza. Respinge invece la richiesta presentata dai genovesi, che vorrebbero valutato nella stessa piazza il solo scudo di Marche, moneta delle fiere di Novi. Un acceso antagonismo si delinea soprattutto fra genovesi e fiorentini. Lo scarso successo delle singole fiere attenua però di quando in quando gli scontri e persino induce a tentativi di compromesso. Per le fiere di Piacenza seguono anni di attività mediocre e tranquillità sufficiente, grazie anche al contributo ad esse fiere fornito da un traffico mercantile. È significativo che le fiere cambiarie annuali siano subito affiancate da nuove fiere di merci tenute nell'aprile-maggio e nell'ottobre-novembre. Quelle genovesi restano sempre vitali, pur operando nel solo ambito finanziario, riescono a superare momenti particolarmente difficili. Un anno infausto è il 1627. Ai banchieri genovesi vengono sospese, come è noto, dal sovrano di Spagna tutte le assegnazioni ed essi, riferisce l'ambasciatore veneziano, si trovano in condizioni particolarmente, come dicevo, difficili. La piazza, ecco l'espressione, ne rimane stordita ed afflitta in estremo, anche perché dubita che un accordo degli spagnoli con i portoghesi possa essere continuato in appresso. In pari tempo gli spagnoli tentano un approccio anche con Firenze, fanno sapere a Corsini, Riccardi, Salviati, i più ricchi banchi di questa città, che contratterebbero volentieri con loro, mandando ad essi delle mercanzie di là. Perché, secondo l'occorrenze, si provvedesse da loro, fiorentini, poi il denaro in Fiandra o a Milano o dove facesse di mestieri. Ma i fiorentini diffidano. Ancora nella fiera di agosto 1629 regna a Novi una grandissima confusione, giacché tutte le case di negozio di Spagna ed altre ancora, nelle quali si sente il mancamento, non trovano la prontezza di ricambiare con gli altri che hanno l'avanzo di grossi crediti e il contante. Nuove fiere di Verona, 1630. La successione del Ducato di Mantova e del Monferrato conduce nel 1629-1630 all'impiego delle armi. La famosa peste che allora si diffonde in tante parti d'Italia sconvolge ogni forma di vita organizzata, compresa quella delle fiere cambiarie, alle quali i banchieri delle maggiori piazze non sanno o non possono rinunciare. Per il sospetto di contagio, i genovesi tengono a Sestri la fiera dell'agosto 1630 e i fiorentini a Marignolle, alle porte di Firenze, quella del novembre. I veneziani, dopo aver pensato alla vicina Chioggia, decidono nell'ottobre di allestire a Venezia tutte le scritture e di andare e di mandare a Firenze le necessarie procure. Il prezzo del cambio del ritorno della fiera di Marignolle suscita indignazione. Chi in Venezia, dando denaro a cambio, aveva comperato 100 scudi di marche, moneta della fiera, al prezzo di ducati 186 un quarto, li trova rivenduti in fiera dai fiorentini per ducati 145, con una perdita del 22% e più. I diretti interessati si appellano agli organi sovrani, non solo perché siano invalidati i cambi della passata fiera, ma anche perché siano proibiti quelli con le future fiere di Piacenza, né basta. Converrà ai negozianti dello Stato veneziano istituire proprie fiere cambiarie, scegliendo come sede più opportuna la città di Verona e adottando con le più appropriate modifiche lo statuto in vigore nelle fiere di Piacenza. La richiesta è accolta dal Senato l'8 gennaio 1631 ed è confermata in termini più precisi il 21 gennaio, con effetto sino a tanto che parerà alla pubblica prudenza. Una precisazione figura nell'esordio della conferma. I savi della mercanzia, ricevute le convenienti informazioni e esaminati i capitoli che erano soliti conservarsi in Piacenza, ne hanno presentato la formula nuova, ora letta, la quale, anche consigliata dagli savi del collegio nostro, è stimata conferente al negozio e al pubblico servizio. Una innovazione è fondamentale. Niuno, io cito dal testo, vero? Del nuovo statuto, niuno degli due consiglieri possi essere di quella nazione della quale sarà il console, neanco d'una medesima nazione fra loro. Si aggiunge però, dovendo sempre l'uno di essi, consiglieri, essere di nazione veneziana, quando il console non sarà di tal nazione. I fiorentini residenti a Venezia si affrettano a chiedere di poter ancora negoziare cambi per le fiere di Piacenza. I savi della mercanzia rispondono che bisogna distinguere la fiera di Novi, nella quale concorrono tutti gli negozianti di questa piazza ed è molto profittevole a tutti gli negozi, cioè di pagamenti di lane che capitano in questa città, come di reali, moneta d'argento, e altro che qui si contrattano. E vedere invece nella fiera di Piacenza un mezzo impiegato dai fiorentini per i fini loro e i rispetti di aggrandire la piazza di Livorno. L'attacco dei fiorentini muove ancora da Roma con l'appoggio di una congregazione di cardinali e l'intervento fiancheggiatore di un agente del duca di Parma. È stroncato nel nascere, se ne vanta il residente veneziano, il tentativo di presentare come illecite le fiere di Verona, perché manca l'assenso dell'autorità del Papa. Trovo invece autorevoli consensi la proposta di boicottare nel dominio pontificio il traffico con le suddette fiere, scrivendo in tal senso ai legati di Bologna e di Ferrara e al governatore di Ancona. Nella stessa Roma viene proibito ai veneziani di mettere il conto, cioè valutare il cambio, per Verona, ma pronta è la loro reazione. Non danno denaro a cambio per altra fiera e tessendo, cito sempre dalla relazione, e tessendo, sebbene minori nel numero, maggiori nella moneta, hanno grandemente i veneziani ristretto i fiorentini. Trovano sempre i veneziani alleati nei genovesi, mentre i milanesi dissentono non poco. In concreto, stante i correnti tempi sospettosi di peste, tanto la fiera di febbraio quanto quella di maggio 1631 sono tenute dai veneziani nella contigua isola di Murano e nella fiera di maggio suscitano scandalo i fiorentini. Hanno portato con sé un grandissimo numero di scudi e di doppie pallesche, cioè fiorentine, monete auree non dei cinque coni, quindi non ammesse nei pagamenti di fiera. Sono tuttavia fatte buone quelle di giusto peso e riposte in sacchetti legati e bollati col sigillo del console. Poi si scopre, portando alla zecca alcuni pezzi per la rifusione in ducati, che nei pagamenti le monete controllate, e quindi buone, sono state confuse con le scarse. Proseguono i tentativi per un accordo nella direzione dell'una o dell'altra fiera. In Milano il residente di Venezia deve però riconoscere che sono riusciti vani i suoi approcci per la fiera di Verona. Col silenzio o con risposte improprie vi hanno sempre i milanesi mostrata una pessima disposizione. D'altra parte, pure in Milano, un rappresentante ufficiale di Genova, incaricato di trattare la riduzione in una unica fiera di fiorentini, genovesi e milanesi, vede respinta la pretesa che nel magistrato venghi ad esservi sempre col console un consigliere genovese e un altro milanese. È considerata specialmente inammissibile l'esclusione dei fiorentini, della quale si parla anche in Roma, non senza conseguenze immediate. In questa piazza si sono subito risolti gli medesimi fiorentini alla fiera di Verona, con ordine ai corrispondenti veneziani di allargare la pratica. Finalmente, nel novembre 1631, la fiera dei veneziani è tenuta in Verona, ritrovandosi ora la città in condizioni, grazie, la città in condizioni di quasi intera salute. Ne illustra il rettore il primo successo in data 6 novembre. Il console et mercanti hanno affermato aver l'effetto di essa superata anche la loro aspettazione. Essendo stati in contanti notificati scudi 77.650 di marco, ed essendo concorsi col mezzo delle loro commissioni i mercanti delle nazioni oltramontane e molti altri ancora di quelle d'Italia, eccettuati i fiorentini, dei quali se ben tre case sono venute al traffico, non hanno però voluto entrare in conto. Il listino dei prezzi stabiliti con questo conto, cioè con una procedura ufficiale, elenca un buon numero di piazze e alcune fiere, ma come giudicarne l'effettiva importanza? Nei confronti, per esempio, di Londra, Parigi, Amsterdam, Anversa. Sono 14 le piazze italiane, fra le quali Bari, Lecce, Messina, Palermo. 9 le piazze oltralpe, tra le quali Vienna, Augusta, Norimberga. 4 le piazze spagnole e 4 le fiere. Figurano le fiere di Bolzano, di Francoforte, di Lione, di Medina del Campo, non quelle di Piacenza e neppure quelle di Novi. È sintomatico che sin dal dicembre 1631 e per iniziativa degli stessi interessati i negozi cambiari della piazza veneziana si chieda di riconoscere a Verona, accanto alle fiere di cambi, anche fiere di merci. Un parere favorevole è subito espresso dai savi della mercanzia di Venezia e dai rettori di Verona, con un voto pur favorevole del Consiglio veronese. Ma trascorre un anno, verosimilmente per risolvere le questioni sorte in materia di franchigie di dazi, prima che il Senato approvi lo schema di statuto preparato dai mercanti veronesi. Sono autorizzate due fiere annuali, nel maggio e nell'ottobre, ciascuna delle quali corre parallela ad una fiera di cambi, come organizzazione però ben distinta. Quella di merci comincia 8 giorni prima e termina quando termina quella di cambi. È ancora più sintomatico che già nella fiera cambiaria dell'agosto 1632 ci si trovi nella necessità di sospendere l'applicazione della norma statutaria che limita la eleggibilità alle cariche di console e consiglieri alle nazioni presenti in fiera con almeno 4 negozianti abilitati al conto. La situazione reale non consente ora, come non consentirà negli anni successivi, tanto rigore. Anche lo statuto delle fiere di Novi subisce nel 1632 qualche riforma, ma essa è indicativa piuttosto di una situazione diversa. Vengono a coesistere per più anni fiere cambiarie separate, che rappresentano lo sgretolamento, senz'altro irrazionale, Da Silva usa questa espressione, parla di in sorte de eresi, una forma di eresia, questo sgretolamento, questa separazione. Dunque, uno sgretolamento delle vecchie fiere di Bisenzone. Nel 1635, ed ancora per la Valtellina, Piacenza diventa zona di operazioni militari. Il duca Odoardo aderisce alla Lega antispagnola di Rivoli. Fra parentesi, i banchieri milanesi, fiorentini, bolognesi devono cercare altrove una provvisoria sede per le proprie fiere. I milanesi propendono per Lodi e vorrebbero restarvi. I fiorentini scelgono alcune località del Granducato, Caffagiolo, Prato, Livorno. Poi, ancora nel maggio 1636, con il consenso del Papa, Rimini. La chiusura degli accessi a Piacenza fornisce tanto a Genova quanto a Venezia l'occasione di attirare nelle proprie fiere, riformandone in qualche parte gli statuti, i banchieri delle altre nazioni. Già nel maggio 1635 il Senato genovese rende più spedita la chiusura delle fiere, facilitandone i pagamenti. Nel febbraio e nell'aprile 1636, suppone bastevole ammettere ad una carica di consigliere un milanese o un fiorentino o un veneziano, eletto bensì dalla propria nazione, ma confermato dal Senato suddetto. Anche Venezia ritocca lo statuto delle fiere di Verona nell'agosto 1636, avendo i fiorentini trovato strettezze di credito, si modera il rigore di cui ha fatto sin qui uso il negoziante con un avanzo di bilancio, e li potrà costringere il debitore a riprenderlo a cambio suddiviso in tre parti per tre piazze scelte fra un gruppo di 10: Venezia, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Bolzano, Vienna, Augusta, Anversa, Lione. Nel febbraio 1637 Piacenza ridiventa una possibile sede di fiere, specialmente per i milanesi e per i fiorentini. Il duca Odoardo cerca infatti di riallacciare con gli uni e gli altri i vecchi rapporti. Con l'appoggio del Granduca di Toscana riesce presto a recuperare i fiorentini, che trovano presenti a Piacenza già nella fiera del novembre 1637. Riesce il duca Edoardo persino a raggiungere un accordo con i genovesi, impegnandoli ad essere pure presenti a Piacenza a partire dalla fiera del maggio 1638. Facile richiamarvi anche i milanesi e i bolognesi. Invece gli è impossibile convincere i veneziani nel marzo e nel giugno 1638 di revocare il divieto di negoziare con Piacenza. Eppure non manca a Venezia il senso della realtà. Affermando alcuni non potersi mantenere la fiera di Verona per la poca speranza che forestieri et nazioni vi concorrino. Altri però credono che fiorentini non siano per unirsi mai con genovesi. A loro volta i savi e la mercanzia sarebbero dell'opinione che per qualche tempo ancora si lasciassero camminare le fiere a Verona, stimando che i forestieri abbino anco a concorrervi, perché se in altri tempi in questa piazza si sono girati la maggior parte dei negozi del mondo, et con il mezzo di essa provvisto ai bisogni della Fiandra et altri principi, si può ragionevolmente credere che, essendo questa piazza la medesima, si debba ancor ridurre al pristino. È dubbio che la piazza realtina sia la medesima. È certo invece che i fiorentini vogliono staccarsi dai genovesi nelle fiere di Piacenza. Le trattative in corso con i veneziani approdano presto ad un risultato. Nel giugno 1638 i fiorentini si esibiscono di venire a Verona al tempo delle due fiere di mercanzia, e come sede delle due altre fiere unite propongono Parma. Nel settembre i veneziani dichiarano essere di loro vantaggio o Modena o Reggio Emilia. Viene scelta poi Reggio. Nel novembre è tenuta a Verona la prima fiera unita, così su di essa informa da Firenze il residente veneziano. Pubblicano questi fiorentini che la fiera di Verona si sia fatta con gran soddisfazione di ambedue le nazioni, ma ad alcuni non è piaciuto che si sia messo il prezzo dei cambi per quella di Bisenzone, che è la stessa di Piacenza, dubitando che sabbia permetter il negoziar con i genovesi. I fiorentini insinuano che i genovesi si sono riportati a Piacenza per sottrarre alle fiere di Verona i banchieri milanesi e bolognesi. Anche inducono le autorità veneziane a distinguere se i genovesi tengono le fiere o in Piacenza o in Novi, ma non le convincono a proibirne a Venezia il traffico in ambi i casi. In verità, a prescindere dalla capziosa distinzione, Venezia ha bisogno di Genova e delle sue fiere cambiarie. Ne espongono le ragioni in una lunga risposta i savi della mercanzia. Riporto. Se vengono di Polonia o Cracovia ordini in questa città di inviarle pannine di ogni sorta et condizione, che pur frequenti sono le commissioni e di negozio considerabile, commettono il pagamento d'esse nella fiera di Bisenzone. Se venduti, se mandati a Venezia zuccheri, cremesi, lane, ceneri e altre merci della Spagna, parimenti assegnano il pagamento a Bisenzone. Se anco a nostri mercanti vengono commesse mercanzie per la Spagna et per Ponente, i pagamenti pure vengono commessi a Bisenzone. D'altronde i genovesi ora hanno tanto oro e tanto negozio, né sono nel stato che erano in altri tempi, mentre correvano dietro agli altri per aver denari. Ciò viene dichiarato nel febbraio 1639. Una fiera unita veneziana-fiorentina è tenuta a Verona nel novembre 1639. Il console fiorentino ritorna a Firenze ripieno di professati disgusti contro la nazione veneziana per non aver potuto saldare i debiti portati in fiera dalla sua nazione con quel vantaggio che desiderava, e si è particolarmente doluto che gli siano stati girati essi i suoi debiti in fiera di Bolzano, che è rigorosa e dove i fiorentini non hanno che fare. E lì, cioè il console, rimprovera una volta di più a Venezia il suo rifiuto di vietare i cambi con le fiere di Bisenzone, ovunque tenute. Insiste sul fatto che viene perduta così l'occasione di sfruttare le particolari capacità di mercato in Rialto. Se sarà proibito il negoziar per le fiere dei genovesi, volendo essi adempir gli obblighi dei partiti per Fiandra e Alemagna, non troveranno incontro sufficiente altrove che nella piazza di Venezia, dove ricorreranno per necessità, essendovi tanti fiamminghi e tedeschi che negoziano, i quali hanno sempre occasione di rimettere grossi ritratti nei paesi loro. Forse i professati disgusti sono un pretesto per abbandonare le fiere unite. Certo, le censure vengono a coincidere con un mutato orientamento delle autorità fiorentine e in particolare del Granduca Ferdinando II. Per la ravvivazione di alcuni crediti antichi della Casa Medicea verso la corona spagnola, impossibile questa ravvivazione senza aggiungere nuovo denaro e entrare formalmente in negozio con Genova, il depositario del monte, che in nome della zecca suole ordinariamente dare o prendere denari a cambio, dovrà fare tutto il possibile per trasportare il negozio delle Fiere Unite a quello di Bisenzone o di Piacenza. A Piacenza si reca infatti per la fiera di febbraio 1640 uno dei figli del depositario con grossa quantità di contante. Non un fiorentino compare invece a Venezia nella fiera di maggio 1640 e neppure si prevede di rivederne uno in quella successiva. I veneziani chiedono pertanto al Senato, sin dal giugno 1640, che tutte le quattro fiere annuali siano tenute in Verona e tanto domandano, benché riconoscano che non vi è piazza alcuna che voglia entrare, accettare i cambi per doversi finire a Verona, dicendo quelli che delle piazze di Milano, Napoli, Roma, Bologna ed altre no, possono servirsi per non aver incontro. Ormai la stessa Venezia non offre più un largo spazio alle negoziazioni cambiarie con l'Oltralpe. Una volta vi era maggior concorso et occasione a Venezia di rimetter per Alemagna et Fiandra per la compreda che da diversi mercanti fiamminghi era fatta in questa città di quantità grande di sete. Invece al presente non vi è se non poca l'investita, capitando le seti di Levante imponente per altra strada. Comunque, peggiore sarebbe il male se si vietasse, come i fiorentini insistono a chiedere, ogni rapporto con le fiere dei genovesi. Ancora, esse sono tenute a Piacenza, ma con quali vantaggi per Genova? Basta poi, nel novembre 1640, una questione di cerimoniale per richiamare i genovesi novi. Il duca Edoardo nega l'onore del cappello al console e consiglieri di fiera che gli rendono l'abituale omaggio. Il Senato di Genova, vivamente risentito, commette al magistrato eletto per la fiera del maggio 1641 di accertarsi prima di fare la visita al signor, signor Duca, del modo con che l'avria trattato. Appena ne messo al corrente, con me messi straordinari, ordina ai propri banchieri di abbandonare Piacenza e di ultimare le operazioni a noi. Reggono, resistono le fiere di Novi, crollano quelle di Venezia. Il trasferimento dei genovesi a Novi disorienta i banchieri delle altre nazioni. La nuova sede delle fiere cambiarie non piace punto ai fiorentini, ma non sanno che partito prendere in contrario, non potendosi dividere dai genovesi per gli interessi dei partiti con la Spagna. Né la nuova sede piace ai milanesi, che propongono al posto suo Crema, con la speranza di raccogliere in Crema anche i fiorentini e i bolognesi, e magari poi i genovesi, sebbene tengono per certo che questi non vabbino a concorrere quando resti loro diminuita l'autorità come nelle fiere di Bisenzone. Una unione generale che comprenda anche i veneziani è presa in esame a Venezia dai savi alla mercanzia, che giudicano utile un tentativo di concertare l'unione sincera delle varie nazioni, sia pure concedendo un trattamento speciale ai genovesi. Bergamo sarebbe preferibile a Crema. Ammettono che a Verona le fiere vanno ogni giorno maggiormente discapitando. Resta costante il Senato di Genova di non voler pregiudizio negli antichissimi privilegi, e se alla fine ai suoi banchieri si uniscono quelli di Milano, di Firenze, di Bologna, il comune punto d'incontro è ancora Novi, fiere genovesi di Bisenzone, che ancora reggono nei successivi anni, nonostante i momenti molto difficili. Nel 1647 la corona spagnola sospende una volta di più le assegnazioni fatte agli assentisti genovesi, eccettuandone quattro, e li mette in crisi nelle fiere. Il destino delle fiere di Verona, delle altre fiere, quindi concorrenti, già da tempo segnato, è sempre più avvertito senza speranze. Gennaio 1648. In una scrittura presentata ai savi alla mercanzia, i negozianti della piazza di Venezia lamentano di essere ormai gli unici operatori delle fiere di Verona e confessano di essersi in esse per lo più valsi di semplici agenti che non facevano in fiera altri negozi che quelli appunto facevano a Venezia. Gli stessi savi confermano che il caso è del tutto disperato. Il Senato concede che siano temporaneamente almeno tenute in Murano le quattro fiere solite farsi sinora a Venezia. Gennaio 1648. Alle fiere di Murano non solo manca un concorso esterno da parte di Firenze, Milano, Bologna, ma anche si riduce sempre più quello interno promesso da chi opera nella piazza stessa. Nel maggio 1652 la situazione dell'ultima fiera muranese viene così esposta dai Savi alla mercanzia. Non vi è concorso di altre persone che quello di magistrato. Capitate anche senza negozio immaginabile, onde non si sono fatte accettazioni di sorte alcuna, essendoci stato qualche scartafaccio di ricorse, e perciò non si sono posti prezzi per niuna piazza, eccetto che per Venezia et Bergamo, per occasione di dette ricorse. Accanto alle espressioni di delusione e di sconforto, altri affermano la necessità di inserire nel traffico mercantile della piazza veneziana quello cambiario di una fiera. E tanto più ora, considerato il momento, se la pace di Vestfalia 1648 pone fine alla disastrosa guerra dei Trent'anni e migliora i rapporti di Venezia con il nord e con l'est europeo, la lotta per la difesa di Candia ha ripercussioni particolarmente gravi nel campo finanziario e in quello del commercio. Attestano i documenti veneziani. Con il Levante è divertito questo commercio, è mutato questo commercio. Sono ridotti in Olanda le merci più pregiate e non si può averle nella piazza che col solo mezzo del cambio, attraverso il comodo della fiera. Ma insediata dove? Il Senato commette ai Savi la mercanzia, maggio 1652, d'ascoltare quanto volessero promuovere e trattare gli negozianti di questa piazza sopra così importante interesse, avvertendo di concertare quello sia di maggior rilievo. Il compito ricade sulle spalle del console dell'ultima fiera ed ecco il risultato di un semestre di tentativi. 23 novembre 1652. Avendo scritto a Firenze, mostravano disposizione quei negozianti di concorrere a celebrare le fiere a Piacenza mentre vi fossero capitate le altre nazioni milanese, bolognese e bergamasca e, se si fosse potuto, la genovese. Aver anche fatto passare ufficio con milanesi ed aver riportato che, avendo essi i loro negozi nelle fiere con genovesi, non erano in punto di potersi dichiarare, non diverse dalle riserve dei fiorentini quelle dei bolognesi. Essersi ben dichiarati bolognesi, ma supposto che lo stesso facciano gli fiorentini, i milanesi e i bergamaschi. Un insuccesso dunque, tanto più che, aggiungono i Savi della mercanzia, al presente la maggior parte dei negozianti di questa piazza cambiano per Bisenzone, per qualche vantaggio et utile che ha portato questa fiera ultimamente. Si giunge così ad una deliberazione temporeggiatrice del Senato. Ha pienamente inteso questo consiglio il pregiudizio che riceve il traffico dalla continuazione della fiera di Murano, Possono pertanto i savi della mercanzia collaborare con i negozianti della piazza per lo trasporto della fiera predetta di Murano in altra piazza, dovrà però il risultato raggiunto essere riferito allo stesso consiglio per quelle deliberazioni che saranno stimate più conferenti. Segue invece un lungo periodo di silenzio ufficiale. Tutto fa credere che anche i rapporti cambiari di Venezia convergano sulle fiere genovesi di Novi. Da questo racconto, più che altro, di vicende, mi sembra vengono in luce due fatti, e questa anche è la mia conclusione. La necessità delle fiere cambiarie, avvertita dalle quattro grandi piazze italiane in momenti di declino economico. La superiorità nel traffico cambiario dei banchieri genovesi, prima o poi riconosciuta anche dai loro più accaniti contestatori. Ma per spiegare i due fatti non basta vedere in una fiera di cambi il punto di convergenza di molte obbligazioni pecuniarie che giungono a scadenza e vengono in larga misura estinte con i pareggi dei bilanci, dei pagamenti. Intanto, questi pareggi richiedono non poche volte la conclusione nella stessa fiera di cambi di copertura per mancamenti o di investimento per avanzi, e quindi concessioni di credito per realizzare i cosiddetti riscontri. Poi, la fiera è anche un'istituzione che facilita il trasferimento di una disponibilità di denaro da una piazza ad un'altra, e magari la creazione di questa disponibilità in una piazza di fronte ad un'altra. Più ancora, durante l'epoca in esame, è un'istituzione che permette forme particolari di finanziamento con scadenza breve ma rinnovabile, con compenso variabile ma non aleatorio. Diventa possibile per questo finanziamento una ingente raccolta di risparmio. Resta da vedere come viene utilizzato e quanto viene a costare. Mi sembra che certamente il discorso a noi fatto in termini così puntuali dall'amico Mandic non è stato un discorso semplice, direi che è stato un discorso abbastanza pesante, anche perché Mandic, appunto, con la sua scrupolosa attenzione prestata al documento, proprio citare testualmente i documenti. Mi sembra però che le conclusioni siano tali da aver capito qual è la filosofia di fondo, il filo conduttore di tutto il suo discorso, e quindi penso che su queste basi si potranno avere dei proficui interventi successivamente. Mi permetto, naturalmente sempre abusando, ma contando sulla calorosa, radicata amicizia di Herman Kellenbens, di pregare l'amico Kellenbens appunto di riassumere molto in breve, non può evidentemente raccontare tutte le vicende agli amici tedeschi, sì. il senso della, dell'intervento. Grazie. Professor Mandic hat aufgrund jahrelanger Forschungen zuletzt insbesondere im Staatsarchiv und in Sammlungen von Venedig, die wirklich außerordentlich wichtige Leistung vollbracht, uns über diese Phase der Krisen, ab Beginn des 30-jährigen Krieges bis zum Ende des Krieges, Klarheit, volle Klarheit zu verschaffen über die Schwierigkeiten, die bestanden, einen nicht bestrittenen Standort für die wichtigen Messen von Besançon, italienisch Bisenzone, um Piacenza zu erörtern, zu klären. Die außerordentlich wichtige Rolle dieser Messen ergab sich aus der Tatsache, dass im Dreieck Spanien, Italien, Niederlande ein Platz in Italien da sein musste, der auch Österreich-Wien, der die Zahlungen, die zwischen diesen Mächten erfolgten, durchführen ließ. Die Tradition von Besançon, José Luis Gentil da Silva hat ein Buch darüber geschrieben, das leider sehr wenig zugänglich ist. Trotz jahrelanger Bemühungen ist es mir nicht möglich gewesen, das Buch, und auch in Gesprächen mit Gentil da Silva, den ich seit den 50er Jahren von Paris her kenne, ist es mir nicht möglich gewesen, dieses Buch bei uns zu bekommen. Und insofern danken wir gerade auch Herrn Professor Mandic außerordentlich für diese sehr klare und sehr präzise Darstellung des Schicksals der Messen von Bisenzone. Sie haben nun gesehen, dass hier eine Rivalität bestand zwischen hauptsächlich drei Geldmächten. Das eine waren die Genuesen, das zweite waren die Florentiner, Genuesen zusammen mit den Milanesen, das zweite die Florentiner und das dritte die Venezianer. Und es ist außerordentlich wichtig, gerade auch den Standort der Venezianer zu kennen. Denn die Rolle von Venezia, von Venedig, ist außerordentlich wichtig in diesem System. Und zwar deswegen, weil Venedig in dieser Zeit der einzige Platz war, der Wechselbeziehungen, Bankbeziehungen von großer Bedeutung über das traditionelle, gewissermaßen mediterrane, lateinische Netz hinaus hatte. Und das hängt zusammen mit der Position der fremden Kaufleute in Venedig, einerseits der Deutschen, abgesehen von den Italienern, Genuesen, Florentiner, hatten alle ihre Banken, ihre Vertretungen in Venedig, aber insbesondere wegen der Rolle einmal der Deutschen, aber auch der wachsenden Kolonie der Fiamminghi und Olandesi. In dieser Zeit vollzieht sich dieser gewaltige Wechsel zwischen Antwerpen und Holland, Holland in Verbindung dann auch mit England. Und Sie haben hier gesehen, wie es nun zu harten Konkurrenzkämpfen, Auseinandersetzungen kommt zwischen den Genuesen, die Linie Besançon, Piacenza, Novi einhalten, und den Florentinern, die eine Zeit lang versuchen, ihre eigene Situation über einen Ort in der Toskana, Cafacciolo, Prato, Livorno, und den Venezianern, die versuchen, wegen der wichtigen Rolle der Terraferma, Verona ins Spiel zu bringen und eine Zeit lang auch die Insel Murano. Aber die ganzen Auseinandersetzungen sind letzten Endes erfolglos, und hier zeigt sich die Superiorität der Genuesen. Am Schlusse bleibt tatsächlich die genuesische Lösung, nämlich Novi. Ich persönlich bin außerordentlich dankbar, dass wir dieses Referat, das so wichtige Forschungen erschlossen hat, dass wir dieses Referat hier zur Diskussion stellen können. Denn wir befinden uns hier tatsächlich am Ende einer großartigen Epoche, die nicht verstanden werden kann ohne die Rolle dieser Messen in Italien. Ich glaube, das ist zunächst ein kurzes Referat über die Ausgangssituation. Wir haben eine Reihe von Fragen, die wir nun zur Diskussion stellen können. Danke viel herzlich. Grazie. Tatsächlich. Dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben. Grazie. Grazie Hermann, anche perché ha interpretato molto bene il mio pensiero nel segnalare i meriti della relazione di Giulio Mandis. Penso che sia il momento di fare una pausa di un quarto d'ora per riprendere Elena e successivamente il dibattito. Forse che deve ancora rientrare? Grazie Gauro perché... Vai. Allora, non lasciamo trascorrere troppo il tempo. Prevedo che ci saranno interventi anche di natura esplicativa in sede tecnica quasi. E allora mi faccio promotore io, credo di farmi interprete di un desiderio, forse non espresso, un po' per timidezza, soprattutto dai nostri ascoltatori più giovani, perché l'amico Mandic esponga molto brevemente il gioco delle fiere del cambio, in modo che si rendano conto meglio, ripeto, i nostri più giovani uditori, di come si possa poi, sulla base anche di questo gioco tecnico, giungere a quelle inferenze conclusive a cui no, appunto... Non spiega. Appunto per giungere meglio. Un inciso. Mi batto il petto, getto la cenere sulla testa, perché sono uno dei primi responsabili dell'asfissia di questo ambiente. Mi è stato detto che a molti dà fastidio il fumo, quindi prego tutti gli amici, ci guardiamo negli occhi noi due, chiaro, siamo i maggiori responsabili, prego di rinviare a dopo i dibattiti il piacere del fumo. Mi spiace, no, perché l'ambiente è chiuso, non c'è circolazione d'aria, c'è qualche amico che ne soffre. Va bene, grazie allora. Allora, no, io vorrei chiedere allora a Giorgio, a Giulio, lui è sempre, i genovesi sono dappertutto, Giorgi, a Giulio, a Giulio Mandic, voglio chiedere a Giulio Mandic, ecco, se può dare, schematizzare proprio il gioco delle fiere di cambi, in modo che possano meglio comprendere gli ascoltatori anche le conclusioni a cui sei pervenuto. Sì. In questo racconto. Io proverò perché non è un compito molto semplice. E mi permetti, scusa, per integrare la cosa, siccome qui a sì, questo è anche detto, l'integrazione, gioco delle fiere dei cambi, gioco delle fiere delle merci, correlazione fra fiere delle merci, fiere dei cambi. Ecco, in modo che... No? Sono due settori distinti. perché ci sono necessità diverse. Difatti i genovesi a Lione, perché c'è stata la separazione, non per ragioni solo anche politiche, l'ostilità del re di Francia, ma lì c'è una ragione proprio, diciamo, veramente economica, separare i due mercati, non la massa un po', diciamo, variopinta dei mercanti, ma il gruppo professionale dei banchieri. Hanno avuto bisogno di isolarsi, di staccarsi per operare tranquillamente e preoccupati soprattutto di poter regolare una moneta loro, staccata ancorata all'oro, al famoso scudo d'oro delle cinque stampe, cioè dei cinque coni, però staccate dalle valutazioni ufficiali che correvano, esistevano nelle piazze. Perché questo bisogno di avere una moneta propria e di dare a questa moneta una libera valutazione? Il problema pratico era questo, come ben conosce anche il professor De Maddalena, perché l'ha svolto in un suo saggio sui Lucini, di garantire in qualche modo, nel limite naturalmente delle possibilità date dal corso dei cambi, della moneta, un certo profitto, un lucro, che io non chiamerei interesse dal punto di vista tecnico, al creditore, alla scadenza di un trimestre, più o meno il 2%. Scusami, forse i nostri giovani ascoltatori non sanno che le fiere dei cambi erano tenute 4 volte all'anno. No, scusa. No, giusto, perché un trimestre, ecco, parlando di trimestre, perché effettivamente le fiere dei cambi erano trimestrali. Anzi, posso anche precisare, io l'ho messo nella lettura perché era già pesante, per la scelta dei momenti del periodo. I termini, le cadute, la scansione, insomma. Ecco, c'è questo. Dunque, questo era il capoverso che ho messo. Le fiere di cambi si susseguono ad intervalli più o meno regolari di un trimestre, 4 in un anno, e ciascuna ha la durata normale di 8 giorni. Sono deprecate, sono censurate, biasimate, maledette, ma erano inevitabili, le dilazioni del giorno d'apertura e le proroghe del giorno di chiusura. La distribuzione stagionale non evita del tutto né i mesi freddi dell'inverno né quelli caldi dell'estate. Due sono le fiere quasi ai margini della primavera, anticipandone l'inizio nel febbraio e la fine nel maggio, e due sono le fiere ai margini dell'autunno, pure anticipandone l'inizio nell'agosto e la fine nel novembre. Questo per indicare queste quattro fiere che avevano luogo praticamente in febbraio, maggio, agosto e novembre. Ora, alla fine succedeva nelle piazze, un risparmiatore aveva dei quattrini da investire in qualche modo, naturalmente in modo redditizio, li forniva, non trafficava direttamente con le fiere dei cambi, perché per lui erano un mistero, certamente. affidava questo denaro a un banchiere della piazza, il quale si impegnava in qualche modo, con qualche patto particolare, di investire questo denaro nei cambi, e il risparmiatore aveva fiducia di riscuotere, di poter realizzare alla fine di un trimestre, qui vedete un investimento breve scadenza, diciamo così, sottratto alle oscillazioni dei cambi. E secondo me è fondamentale il discorso, la fortuna delle fiere è anche legata a questo rifugio contro le oscillazioni frequenti delle monete, perché si poteva dire, beh, fra sei mesi la moneta può avere subito, con danno del creditore, di solito un balzo notevole, ma sei mesi, un anno, come oggi facciamo con i bot in sostanza, vero? I buoni del tesoro. Buoni, appunto, a scadenza tre mesi, tre mesi le cose non possono anche non andare in malora. Ma sei mesi, un anno, due anni, l'investimento a lunga scadenza è pericoloso in periodo di alterazioni monetarie come è il 600. Chiudo questo. Ora, cosa veniva? Il banchiere dava un prezzo, cioè acquistava, perché se dava denaro acquistava una merce specialissima, che è lo scudo e la moneta di fiera. Lo pagava a un prezzo basso, perché concludeva di solito il negozio con molto anticipo sulla fiera, in quel periodo che praticamente coincide con la scadenza delle cambiali che arrivano dalla precedente fiera. È tutto un gioco, c'è tutto un arco, come una serie di archi. In fiera si conclude un contratto, scade nella piazza dopo 8-10 giorni. Nella piazza vengono a scadenza molte cambiali di fiera e abbiamo tutto una specie di stanza di compensazione, perché c'è chi deve pagare. E allora è in quel momento che è poi la fase di apertura della fiera nuova, in quella fase di cambiali che scadono abbiamo anche una fase di nuovi contratti, perché molte volte era il ricambio, la somma investita ritornava ad essere investita e il prezzo era basso perché la fiera era lontana, la fiera successiva. Via via si avvicinava l'epoca della fiera, naturalmente il prezzo della moneta di fiera aumentava, però si partiva ad un prezzo basso. Nella fiera i complici, diciamo i banchieri di fiera, che sempre erano collegati in qualche modo con quelli della piazza, molte volte erano consoci o erano dei fattori, degli amici, dei mafiosi, dovevano fissare il nuovo prezzo di fiera. Come facevano? Tenevano conto, fin dove possibile, dell'ultimo prezzo, che era già abbastanza alto, e lo alzavano ancora, di modo che io potevo aver acquistato a 100 e riuscivo a vendere a 102, perché naturalmente chi comprava nella piazza rivendeva nella fiera, acquistava a un prezzo basso, diciamo 2-3 mesi prima, e rivendeva a un prezzo alto. Questo era il gioco che specialmente negli ultimi, per gli ultimi decenni, periodo proprio delle lotte fra loro, praticamente era l'elemento che richiamava più nella fiera il risparmio. Questo è il gioco, proprio il problema, è moneta di fiera quotata con una valutazione artificiosa, diciamo così, esisteva una regola del gioco, un fair play, dice, chiamiamolo così. Sulla fiera un prezzo alto. Naturalmente qualche volta non era possibile fissare un prezzo alto, come nel caso che io riportavo del Ducato di Banco Veneziano, perché il Banco del Giro era in crisi. Quando veniva concluso il contratto, quindi bisognava dare molti ducati di banco screditati, ma poi c'è stato un rapido miglioramento, io l'ho seguito in un altro studio, della partita di banco. C'è stato un forte aumento nel corso di qualche mese. E allora, quando i fiorentini a Marignolle non hanno imbrogliato, come hanno detto i veneziani, hanno manovrato secondo la logica. Hanno detto, oggi il ducato di banco vale molto, quindi la moneta della fiera deve essere valutata a un livello più basso. Ecco perché hanno acquistato, non ricordo esattamente, a 150 e hanno dovuto rivendere a 120. C'è stata una ragione, però i veneziani hanno detto, vabbè, sì, è giusto, questo è giusto, noi lo riconosciamo, però avete esagerato, dovevate essere più vicini anche, più collegati con noi, visto che viviamo nella Repubblica internazionale, quindi hanno un po' traditi. Lo stesso gioco è avvenuto, per esempio, ricordo anche per esempio, a Bolzano, un altro episodio. Naturalmente a Bolzano le cose procedevano con maggior ordine. Questo. Intervenivano all'operazione del conto alcuni fra i maggiori più stimati negozianti, mercanti, perché erano mercanti, non erano banchieri, della fiera. 10 più il magistrato di 3 console, 2 consiglieri e poi questi 10 addetti che venivano eletti per il cosiddetto conto, per la valutazione della moneta di fiera bolzanina, che era poi uno scudo famoso che valeva 90 kreutzer, l'unità monetaria era il carantano, il kreutzer. Ora hanno valutato, hanno detto a Venezia l'ultimo prezzo è stato X. Noi dobbiamo aumentare di poco, sia pure di poco, ma dobbiamo aumentarlo per far guadagnare chi ha investito. Uno dei presenti, e probabilmente era uno dei componenti del magistrato, si è opposto, dice guardate che a questo prezzo a Bolzano noi non possiamo vendere lo scudo della fiera. Dobbiamo abbassare. Gli altri hanno detto, no, perché secondo la regola del gioco dobbiamo aumentare di qualche cosa per consentire il guadagno. E questo allora, membro del comitato del conto, si è alzato e se n'è andato. Ma dice il documento che resta in questa seduta che gli altri hanno fatto dei calcoli, non precisa purtroppo come hanno fatto i calcoli. Hanno preso la penna, hanno fatto dei calcoli e hanno detto sì, dice si può applicare questo prezzo. Tutto questo io ho voluto richiamare per mettere in luce l'artificio usato, l'espediente usato dei banchieri di fiera per dare un valore compensativo alla moneta di fiera. Naturalmente capitali vestiti in fiera. Questo è, io mi riferivo a una forma di investimento diretto, il risparmiatore più o meno modesto, qualche volta l'erede, qualche volta gli esecutori testamentari che dovevano investire del denaro, comunque portava il denaro con la speranza di ottenere un di più. Attraverso il gioco, proprio, ripeto, il gioco del cambio del ritorno, si chiamava prezzo dell'andata basso, prezzo del ritorno basso, ma si comperava dando denaro a cambio, si comperava e poi quello che la moneta comperata veniva rivenduta in fiera a un prezzo maggiore, tutto nel corso di 3 mesi. Forse sarebbe opportuno, sempre per i più giovani nostri uditori, che tu facessi anche un'altra considerazione. Beh, e questo viene... anche, mi permetto, scusate, credo di interpretare soprattutto, è un seminario, quindi deve servire a chi ci segue. È un'altra cosa, la posizione di debito e di credito delle differenti piazze, come agiva sul corso? Perché forse voi lo capite voglio dire. Il problema era questo, la valutazione, e beh, questo è il più grosso dei problemi, che si è trovato di fronte anche da Silva, e ha cercato in qualche modo non di risolverlo, perché è un problema enorme, però ha cercato di orientare verso una soluzione. Perché probabilmente sarebbe una domanda perché, che i nostri giovani ci fanno. Ma questo, e questo è il fatto, che la valutazione dello scudo, della moneta di fiera, non può essere fatta nei confronti di una piazza. Contemporaneamente deve essere fatta per un non dico centinaia, ma perlomeno una ventina di piazze ed altre fiere. Bisognava quotare il valore che ha lo scudo nei confronti della piazza di Milano, che si trova in una certa situazione, nei confronti della piazza di Genova, che si trova in una certa situazione, nei confronti della piazza di Venezia, in una situazione che qualche volta non è. O di Augusta. Questo per parlare delle piazze che meglio si prestano a una valutazione. Poi se noi pensiamo alla situazione, insomma, Medina del Campo, che è uno dei punti di riferimento più importanti, più comuni per i genovesi. Napoli, Palermo, Lecce. Allora il problema è come potevano orientarsi. Con quali criteri razionali? Naturalmente il riferimento era il prezzo dell'andata. L'ultimo prezzo da Napoli, quanto era? L'ultimo prezzo da Venezia. E cercando di orientarsi, naturalmente fatti nuovi potevano avere nel frattempo dal prezzo, perché quale prezzo? Ecco. Io vorrei dire, chiederei ad Silvio una cosa. Quei prezzi che ha riportato già in una sua vecchia pubblicazione con Romano, i prezzi dell'andata che costituiscono una minoranza nei confronti degli altri prezzi del ritorno, perché la fonte utilizzata da questi due studiosi, che voi certamente conoscete, è una fonte un po' strana, un vecchio libro napoletano, bianco, con titolo stranissimo, oltre il resto, ma riporta molti dati e riporta una lunghissima serie di prezzi del ritorno dalla fiera. Perché aveva i listini delle fiere ed era facile ricavarli da questi listini. Invece riporta un certo numero, per un certo numero di anni, dei cambi dell'andata da Milano, da un certo momento. Io ho voluto ricostruire le curve servendomi servendomi, grazie, dei dati che ho trovato poi in un secondo volume da Silva. Qui avevo solo dei grafici costruiti, naturalmente io li mostro così a distanza, ecco, vedete. Quindi sono tutti i ricambi, cioè i cambi del ritorno di una ventina almeno di piazze. E siamo nel periodo? È il periodo che va dal 1600 al 1650. Io ho considerato soltanto il periodo della crisi, diciamo, della crisi iniziale del secolo XVII. E qui, ogni piazza ha il suo cambio di ritorno. E qui c'è in quest'altro grafico, che è limitato a Milano, Genova, Venezia, Firenze, Roma e Napoli, abbiamo anche i cambi dell'andata. Non tutti, come vedete, non sempre, non tutti, abbiamo dei vuoti. Ma questi cambi, mi sono chiesto, cambi dell'andata, come sono stati ricavati? E quali cambi? I cambi conclusi all'inizio del periodo o verso la fine? Ora, siccome il reddito è del 1 fra l'1,50 e il 2%, non è ammissibile che il cambio sia stato concluso 3-4 giorni prima. Ora, sono, anche se non lo dice, se non lo dicono gli autori, naturalmente questi cambi dell'andata, numero limitato, devono essere riportati all'inizio del periodo trimestrale, periodo che precede la fiera, per avere una scadenza di almeno 3 mesi, quindi sono investimenti a 3 mesi di scadenza. Quello che faceva Lucci. Ma dico poi, ecco, ritorno alla questione, al problema iniziale. La valutazione deve essere fatta nei riguardi di tante fiere e bisognava coordinare queste diverse valutazioni. Perché? Perché c'era il gioco degli arbitraggi. Se una valutazione per Napoli risultava, diciamo, assurda, troppo bassa, lo speculatore attento, perché era sempre attento, questa è l'abilità di questi banchieri genovesi, sì, ma anche fiorentini, ma anche milanesi. Ora, erano pronti a cogliere l'occasione, trovavano un vuoto e penetravano nel vuoto. Cioè, dicevano, il prezzo è alto e qui è basso. Allora cosa possiamo fare? Noi possiamo comprare per una piazza e vendere per l'altra. Fare il cambio doppio. E qui avevano la possibilità di questi arbitraggi. Prego? No, in piedi, all'atto. Acquistavano e vedeva. Gli stessi... Acquistavano su Napoli e vendevano su... Gli stessi banchieri che, diciamo, intervenivano a questa procedura solenne, disciplinata, con dei criteri che avrebbero dovuto essere rigorosi, dovevano, appunto, quando proponevano il voto per, diciamo, il ritorno a Firenze, ricordare che avevano anche fissato, stavano per fissare un prezzo per ritorno a Venezia, per non provocare queste speculazioni, questi arbitraggi che poi, alla fine dei conti, mettevano in equilibrio. Il prezzo ufficiale era sballato, però con gli acquisti numerosi per una piazza, le vendite numerosi un'altra, venivano a alzare, a abbassare, in modo che livellavano al di fuori però del conto. Questa è la cosa strana. Perché al di fuori del conto? Ecco, queste nelle patuizioni private, perché il conto era sempre rigoroso, nel senso che colpiva il debitore. E si applicava proprio nei casi di protesti, per esempio, per la rivalsa. Ma nei documenti si sa che quello per esempio il milanese tali tali, diciamo uno dei vicini, ha ottenuto sul conto lo sconto di tanto. Che vero. Un altro invece ha ottenuto, quindi abbiamo questo, questa spinta che è naturale verso l'equilibrio economico, praticamente tutti i problemi nel mercato c'è sempre questa tendenza verso l'equilibrio. E anche questa materia, valutazione sbagliata, c'era la possibilità di rimediare, perché il conto veniva stabilito nei primi giorni, quando all'inizio, proprio secondo, terzo, quarto giorno di fiera. Per esempio a Bolzano mi sono trovato di fronte a questa a tentativi ripetuti di cercare di inserire il giorno del conto al momento più opportuno, non tanto prima, perché bisognava conoscere la situazione della piazza, non tanto dopo, perché naturalmente bisognava impedire che per esempio lasciare margine, cioè per la stipulazione di nuovi contratti, perché se il conto era noto all'ultimo giorno di fiera, quando è che concludevo? Si poteva, allora lì c'è questa oscillazione abbastanza frequente, lo statuto modificato per anticipare un po' il conto, per posticipare secondo le esigenze magari anche del periodo. Ecco, scusami, pare forse che prima di dare la parola a Giorgio Doria che l'ha chiesta, vuoi fare forse adesso un inserimento brevissimo sul rapporto Fiera dei Cambi, Fiera delle Merci? Era la speranza questa, è una speranza che credo sia andata delusa, cioè di dire gli affari, lì per esempio domande di prestito, potevano provenire non dalla piazza o dalle piazze, ma dalla fiera in corso, dalla fiera collaterale. Ecco, c'era il mercante che aveva bisogno di quattrini, invece di chiederli nella stessa fiera di merci, chiedere magari credito al venditore, poteva, dato il costo, il famoso deposito per esempio, dato il prezzo dell'anticipo, poteva chiederlo al banchiere di fiera. Questi servizi servizi di carattere finanziario prestati dalla fiera di cambi alla vicina e contemporanea fiera di merci. Quindi il mercato finanziario che si inseriva sul mercato monetario. Cercava un po' di alimento o si illudeva. Com'è finita invece la storia? Perché abbiamo avuto, dunque, prima Lione si distacca e lì abbiamo un movimento, diciamo, centrifugo. Lione, fiera di merci e di cambi, in piccola parte resta fiera di cambi, ma si stacca e diventa un'organizzazione diversa, che ha esigenze diverse, struttura diversa, nomi diversi, monete diverse. Perché ecco un'altra cosa, per esempio, la fiera di cambi ha bisogno di moneta buona, di moneta d'oro, mentre nella fiera di merci c'è un po' di tutto, tutto il più, anche per fare sempre, io ho studiato molto, ho studiato abbastanza la fiera di Bolzano, perché ho trovata interessante sotto diversi aspetti. Lì la moneta piccola esclusa, non si poteva usare. Però c'è stato un arciduca che ha detto, dobbiamo distinguere, sì, c'è il traffico di merci per il quale può essere consentito l'impiego della moneta piccola, mentre per i cambi occorre sempre la moneta d'oro, la moneta tipo d'oro. Difatti, per esempio, Genova aveva cercato di, e poi è riuscito in un periodo però successivo, aveva cercato di introdurre nei pagamenti di fiera, intendiamoci, non quelli di piazza, accanto allo scudo d'oro anche lo scudo d'argento. Però c'è stata, la moneta d'argento ha una valutazione molto più suscettibile di variazioni, quindi non si prestava. Come vedete, ecco, nella fiera di merci noi troviamo elementi diversi, criteri diversi, magistrati diversi, monete diverse. E l'altra esisteva. È successo questo, che le fiere di merci hanno continuato, ma una loro vita, che non ha avuto più contatti praticamente rilevanti con la fiera di Cambi. Difatti la fiera di Cambi è finita, a un certo punto abbiamo avuto un esito disastroso per Verona, ma la fiera di merci di Verona è rimasta, così anche per Piacenza. Hanno avuto destini diversi, prova che erano organizzazioni diverse. E mi chiedo, allora scusa, poi ti do la parola Giorgio, per continuare su questo punto. E quello che avviene invece sul mare del nord, ad Anversa e ad Amsterdam, lì la correlazione tra fiera di merci e fiera dei cambi o diciamo borsa. Ma la Stock borsa, exchange. Vede, c'è questo, la borsa non ha un'esistenza periodica. Ecco. Hai un altro mercato, hai tutta un'altra cosa. Cioè, anche qui dobbiamo stare attenti perché non siamo sullo stesso piano, a volte si legge sulle correlazioni. No, ci sono delle analogie, sono delle analogie. La borsa ecco. È la fine della fiera. È la fiera, è già la borsa è la fine della fiera. Nuova epoca. Sì. Magari figlia del genere qualche volta, ma comunque è così. E la figlia è la fine. Sì, la figlia è la fine. Ma ancora io credo che questa esposizione è solamente delle fiere italiane, ma non le fiere della prima. Quelle della Germania, quelle che sono Francoforte. C'è differenza. Perché la prima in 500 sono. La fiera del campo erano la cosa, però come a Lione, come nella Champagne, avevamo anche il fiere comune, è stato embrionale se vogliamo questo traffico cambiario, vero? Poi abbiamo avuto già a Ginevra, no? Certo, e poi abbiamo avuto a Lione e a un certo punto c'è stata, ecco, diciamo così, la grande novità. Che prima non esisteva. I genovesi, per tante ragioni loro, ma soprattutto per ragioni economiche, hanno detto noi ci stacchiamo, formiamo un nostro gruppo, operiamo con i nostri criteri. Può darsi che la spinta sia data anche dal fatto che il volume degli affari avesse avuto una grandiosa spinta proprio da investimenti per la Spagna. Così che i genovesi da una repubblica del denaro sono passati a una chiesa del denaro. No, no, a una parrocchia. A una loro repubblica, a una loro repubblica. No, a una loro repubblica. Ma poi c'è una cosa che forse potrei anche aggiungere. È, dicevo, una novità. Come organizzazione sì, ma come criterio no. Il famoso gioco del prezzo del ritorno. Io l'ho trovato in documenti del 1300 a Venezia. Ho collaborato col professor Sapori per una edizione stampa di un grosso volume della compagnia Covoni. E lì ho presentato uno studio, la ricostruzione dell'attività di questa compagnia fiorentina che aveva sede centrale in Firenze e una filiale anche a Padova, però trafficava con Venezia in cambi, non in tessuti, in panni, in cambi. E okay. Mi sono accorto che effettivamente come sistema, non occasionalmente, ma in modo sistematico, i fiorentini comperavano la lira di Grossi Manca, altra moneta particolare che è stata studiata da Lenin in modo un po' grossolano. Comunque, acquistavano questa moneta veneziana perché veniva a Venezia rivenduta con un criterio che si perpetuava quasi, a un prezzo maggiore. Poi è diventato nel 400, io ho studiato nel 300, prima a metà del 300, 1336, 1340, poi è diventato sotto il nome di Cambium ad Venetias, o anche Cambium ad Grossos. E lì, ma è quello che poi abbiamo, che verifichiamo nelle fiere genovesi del 5-600. Quindi niente di nuovo sotto il sole. Continuità. Infatti Venezia è stata definita da Luzzato fiera permanente, anche sotto l'aspetto cambiario. Non c'era la riunione periodica, lì uno poteva ogni giorno comprare, sicuro che poi a una certa scadenza, che la cambiale aveva una certa scadenza, veniva rivenduto a un prezzo maggiore. Grazie. Primo che ha chiesto la parola è Giorgio Doria. Io volevo fare una breve osservazione su questo problema. Non si sente questa sì, cosa, grazie. Una breve osservazione sul problema dei campi e poi fare alcune considerazioni che è una domanda. Il problema dei campi, ecco, c'era tutto quello che lei ha detto adesso era così precisa e interessante. Grazie. Ma c'era anche qualcos'altro nelle fiere, perché il cambio così, così descritto, 2%, 1,5% sì, fiera, sì. Era sulle monete di conto ed era per mascherare l'interesse. Sì. Poi c'erano, anche dei trasferimenti reali, di monete reali. Sì, sì. Perché fate attraverso la fiera su cui giocava certo anche il problema del debito e credito delle diverse piazze e quindi il gioco della stanza compensatoria, ma c'era dei trasferimenti effettivi su monete reali su cui c'erano le cose guardate. Esempio, dov'è che guadagniamo moltissimo i genovesi sugli Asientos? Comportava Medina del Campo un certo prestito a Corona, che era però non da dare, da pagare in un'altra moneta avversa, attraverso le fiere di Piacenza. Allora c'era una moneta reale a Medina del Campo, diventava una moneta di conto. In fiera senza avversa di sì, nuovo sì. Bisogna pagare sì. Alle armate di moneta sì. Reale, quindi in realtà attraverso questo caso c'era una moneta reale in Spagna e una moneta reale avversa. Su questa differenza della valutazione che era manovrata dai genovesi, quindi era una valutazione fittizia attraverso il meccanismo del fiere, in un'operazione che nell'arco di tempo era molto breve, di questo credo che ampiamente ci parlerà il professor Vasquez Prada, la sentista, adesso guadagniamo al 10, 15, anche 20% in un'operazione semplicemente di trasferimento di pagamento per l'offerente e fasulla valutazione di due monete reali. Questo è per l'aspetto del dato. E sulla, invece sulla ampia, interessantissima, appassionata e anche, se mi consente, posso fare una tecnica sua relazione. Grazie. Guardi, se, per cortesia, io sono un po', data la mia età, sono anche un po' sordo, se vuole, ecco. Ecco, volevo tutta la vicenda dei contrasti, qui le scelte, il posto, l'organizzazione, i cambiamenti di statuto, sembrano anche delle discussioni abbastanza attuali nel nostro paese, di fare riferimento a delle cose astratte, non accorgendosi della crisi, della catastrofe completa che era in atto, perché salta chiaramente tutto il meccanismo delle fiere di Bisanzone che era andato, tutto il sistema che era andato avanti per circa una novantina d'anni. Quindi tutta la logica che c'è stata dall'inizio del 500 all'inizio del 600 salta per un altro secolo, poi diventerà forse nel 1700, parlando più di lì, perché siamo in una fase calante economia, si risponde col classico sistema delle chiusure particolaristiche, dei protezionismi, diremo tra virgolette, e quindi direi che la Repubblica del Denaro salta, la Repubblica Nazionale del Denaro si sgretola, si sgretola, certo. E il fatto che il problema fosse perché non tirava più questa meccanismo finanziario italiano, e qui c'è la domanda, è quanto era il giro d'affari più o meno delle fiere? Già, sono valutazioni, valutazioni difficili. Perché ci si accorgerà che il giro d'affari della fiera in Toscana, più quella di Verona, più quella di Novi, compresa anche quindi il giro dei genovesi, in questo periodo era niente in confronto, ma non so, anche tutte sommate, secondo me, era una cosa. Ma il Felloni non ha dato qualche risposta su questo. No, e no, su questo non, no. No, e neanche nel libro di Tilda Silva. Cioè. Ah no. E qui quindi secondo me rispondo certo io. La ragione è anche di carattere militare, ne parlavamo meno con il nostro vasco più parlo. Perché dove c'era necessità di grande afflusso di denaro, cioè dove c'erano le armate, si era spostato lo scacchiere. Lo scacchiere Fiandre, Paesi Bassi e Fronte Renano diventava marginale in questa fase della guerra di 30 anni e il peso era nell'area centro-orientale, diciamo del mondo germanico, dell'area germanica, era lì che era necessario. Quindi si sposta completamente servizio. Ed è secondo me questa la fase in cui l'Italia, e qui ci metto sicuramente anche a Genova, se mi interessa, diventa fa parte la dell'Italia, la appendice sottosviluppata dell'Europa. Per questo. Dunque, lei parlava di moneta effettiva, reale. Per esempio a Siviglia, vero? E poi che una moneta effettiva ad Anversa, no? Sì, croce. Attraverso la fiera. Ora, come, cosa succedeva? Praticamente questo. A Siviglia veniva negoziato un cambio. Il datore, il cosiddetto datore della valuta, che dava denaro, che cosa dava a Siviglia? Secondo lei? No, lui si impegnava a Siviglia, a Medina del Campo, a dare a Anversa. Però questo era un impegno che prendeva nei confronti pensava, della corona, vero? Doveva dire io devo fornire dei fondi a Siviglia. Ma no, dico, devo portare in una moneta e si impegnava a pagare nell'altro. Sottovalutava una e sottovalutava l'altra. Ma io ho cercato di ricostruire un po' servendomi dell'Ehrenberg, ma soprattutto servendomi del Peri, come il meccanismo della non dell'assiento che viene concluso, ma della realizzazione dell'impegno assunto con l'assiento. Perché la sentista che cosa si impegnava? Di far pervenire, per esempio, ad Anversa tante migliaia, tanti milioni di moneta. Questo si impegnava. Tutto il traffico poi effettivo, tutto il meccanismo che veniva messo in movimento, veniva messo in movimento, diciamo in un'altra sede, l'assentista e i suoi complici, i suoi... Per esempio, ecco, lei mi dica, per esempio, quando veniva concluso, diciamo, quando a Siviglia l'assentista dava inizio all'operazione non nei rapporti con la corona, ma nei rapporti con Genova, con le fiere di Cambi, con la... cosa faceva? Qual è un atto compiuto dall'assentista per dar corso al suo impegno, cioè fornitura di moneta in qualche modo ad Anversa? Come immagina lei che procedesse? Il cambio dove era concluso? Ecco, dove era concluso il cambio? Il cambio non è l'assento, eh? No, no, no. Appunto. Ma molti assento si erano fatti così. A Medina del Campo. Io, genovese, poteva essere una fiera di Medina, eh? E presto 1000 ducati al re di Spagna. Io li devo pagare. Diceva, presto 1000 ducati, li devo pagare Anversa in forma, poniamo, di talari. No, beh, qua, no, ma non è, no, no, no, no, alla re non interessava questo, alla re non interessava questo, cioè a quali condizioni? Lei dice, io ho bisogno di tanti milioni ad Anversa, e impegnava. Con la, perché poi il corrispettivo lo cercava in altra parte, da un'altra. Una serie di operazioni venivano fatte così, poi praticamente. Ma no, è qui il punto, il punto oscuro è proprio questo, sa? Sì, ma è alla fine di queste che per lei esempio consente su di certi registi, ecco. Registi contabili genovesi c'è. Ma nel registro che cosa? C'è perdita sofferta da Sua Maestà Filippo II ed è l'utile ricavato in questa operazione. Ma probabilmente l'utile o perdita ricavata è quella della sentista che veniva registrata, non veniva addebitato il re. No, caro. Sì, ecco. Scusi, io di parlare italiano, sono due sistemi di pagamento, il sistema Spagna, Portogallo, Fiandra, Sevilla, esistono i ducados a 325 maravedis, a Medina del Campo il banchiere Cambio compra una somma, una quantità a ducados o a escudos per ripagare a Anversa. A Anversa più o meno 404 o 8 maravedis per 65 gruesos. Son los gruesos de Fiandra, gruesos de Fiandra. Y adesso da Anversa a Venezia o alle fiere di Besenzone è necessario di ricambiare. E questo sistema di fiere è originario il sistema delle fiere di Lione. Lo scudo di marca è l'écu de marque. E l'écu de marque, questo è molto complicato, ma a Lione è preso da Lione per Bisenzone e da Bisenzone a Piacenza, eccetera, eccetera. Sì. E quando i banchieri tedeschi, quando facevano il trasferimento di pagamenti dalla Spagna a Firenze, a Genova o a Piacenza, hanno ricevuto il denaro a Valladolid o a Madrid in ducados o in escudos, ma hanno ricevuto in scudi di marca. E questo è molto complicato. E che, non esistevano, vero? Era una moneta immaginaria. Sì, sì. E hanno trasferito da Piacenza a Venezia, ma in Venezia sono stati pagati in ducados. Poi, cioè, no, c'è tutto, è tutto un... E questa è la grande difficoltà di sapere... poter rispondere in modo, diciamo... cooperazione tra le due sistemi. Lei ha parlato di un sistema, vero? Io ho trovato che almeno nel secolo XVII, i primi decenni del 600, il genovese seguiva questa via, cioè si impegnava di fronte alla corona spagnola di provvedere una certa somma ad Anversa. Poi in qualche modo si arrangiava. Molte volte mandava un ordine a Genova, a un banchiere, a un suo collega di Genova, di cerca attraverso le fiere di procurarti i mezzi perché più tardi a quella scadenza giunga ad Anversa questa somma. Il banchiere genovese, quindi diciamo Medina del Campo, Madrid, Genova negoziava per la fiera e praticamente cercava di procurarsi denaro per poter poi in fiera dire al veneziano: senti, io ti vendo o ti compro, eccetera, scudi di fiera, ma tu mi fai creditore a Venezia. A Venezia cosa faceva? Il corrispondente veneziano comperava da fiamminghi, negozianti in fiera, delle cambiali che scadevano ad Anversa. Quindi il denaro, c'era un contratto, un accordo con il banchiere di Genova. Poi un negozio cambiario con Novi. Novi con Venezia, Venezia. E la ragione era questa, si diceva allora, almeno nei primi tempi. Venezia presenta una grande offerta di divise per le Fiandre. Una grande offerta che è andata poi spegnendosi. Questa era una via, poi naturalmente quando questa via è un po' complicata, si è perduta, avevamo il trasferimento diretto di denaro, vero? Via mare, no? E nel 500 com'era? Nel 500, lì all'epoca di Fugger, lì ci avevano fatto qualcosa del genere, vero? E io non ho studiato, non ho avuto modo di interessarmi direttamente, io conosco attraverso il Lehrenberg, Lehrenberg ha descritto, ma però non è sempre chiaro nei trasferimenti. Brodel, anche lui, dopo la mia pubblicazione, la mia prima pubblicazione sulla ricorsa, ha utilizzato anche lui i documenti, ma anche lì c'è qualche vuoto, cioè questo passaggio. Quindi è difficile dire come la moneta, certo. E poi era tutta moneta immaginaria, perché si negoziava, anche nella Spagna si negoziava in ducati che erano immaginari. In reali. Il denaro effettivo cos'era poi? Era quello che poteva procurarsi quando giungeva la flotta, no? Era quello il denaro. E poi Anversa si pagava come moneta delle Fiandre. Perché e poi si quando scadeva la, la divisa, come diciamo oggi, o la lettera di cambio, come si diceva allora, naturalmente lì si pagava con la moneta della piazza. C'erano anche trasferimenti di contante, sì. I genovesi portavano per esempio reali nelle fiere, ma non per pagare effetti scaduti, o non direttamente almeno, ma per poterli vendere a altri, a veneziani che avevano i loro corrispondenti in fiera e cercavano reali. Molte volte poi il reale non veniva venduto in fiera, veniva venduto a Genova. Allora il genovese vendeva, diventava creditore in fiera, il veneziano pagava in fiera. Naturalmente prima c'era un'osservazione giusta fatta dal professor Goria, ed è questa, che i pagamenti, io anche il professor Muto quando indica le fiere dice fiere di pagamenti, e questo lo usa da Silva eccetera. Ma il pagamento qualche volta è il risultato ultimo di concessione di credito. Quindi la, vedere nella fiera una clearing house, una grande stanza di compensazione, è, diciamo, se non è sbagliato, perché opera anche. Però prima di questa compensazione c'è il cosiddetto riscontro, incontro, cioè una serie di nuovi cambi o di copertura per chi ha dei debiti ancora scoperti o di investimento per chi ha dei crediti. Si cerca alla fine di presentare il console, questa è la meraviglia, diciamo, presentare al console un bilancio nel quale i debiti e i crediti che pareggiano sono intestati allo stesso console. Se il banchiere presenta un pareggio il suo bilancio, un altro banchiere lo presenta il proprio e così un terzo, naturalmente il pareggio di tutti i bilanci significa pareggio generale. Questo è il riscontro. Il riscontro è un altro termine. Per esempio a Lione, come anche a Bolzano, c'è l'assegnazione, è un'altra cosa, molto più, più complicata. Cioè io, qui c'è un debitore, un creditore, e il debitore come paga? Dice: io ho un credito, ti cedo il credito. Così il suo creditore veniva pagato. C'era proprio la cosiddetta assegnazione. Un tizio assegna, gira, oggi poi la girata probabilmente è nata da queste. No, ma lui dice per confronto. Sì, lì queste sono, ecco, mentre nelle fiere cambiarie con il bilancio dei pagamenti c'è un pareggio generale, fino a un certo punto, perché ci sono delle differenze scoperte. E allora bisogna al console stesso. Il debitore che ha uno scoperto versa del denaro. Il console che riceve il denaro dal debitore lo passa al creditore. Quindi col movimento di denaro attraverso il console abbiamo di nuovo il pareggio di bilancio. Sì, per arrivare al pareggio di bilancio. Perché lo scopo era quello di evitare l'impiego del denaro effettivo. Lavoravano sempre con monete immaginarie che poi valutavano. È tutto un artificio, una grande costruzione, un po' un'utopia, come è stata definita anche, vero? Il professore Gessner. Ich möchte noch einmal auf Ihren Vortrag zurückkommen. Der Versuch, Wechselmärkte zu verlegen, setzt doch eigentlich etwas voraus, das ich seit 30 Jahren vergeblich suche in den Quellen des 14. und 15. Jahrhunderts, nämlich einen Fundus an Rechtsauffassungen, der von allen gebilligt wird. Die Frage ist, das in Oberitalien greifbar. Mir macht das deshalb einige Sorge. Ich werde heute Mittag Beispiele bringen, wo Warengeschäfte abgeschlossen werden, zahlbar nach Wechselsrecht kund. Das heißt, es wird gar kein eigentlicher Wechsel ausgestellt, sondern das Handelsgeschäft wird nach Wechselsrecht abgeschlossen. Also, Sie kommen nur in die Richtung am Jahr, ohne dass ich weiß, was das ist. Jedenfalls genügend. Es werden andere Geschäfte abgeschlossen zwischen oberdeutschen Kaufleuten, zahlbar in Venedig. Ich halte es für ausgeschlossen, dass zwei Deutsche nach Venedig reisen, um sich gegenseitig Geld zu übergeben. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, oder könnte mir vorstellen, dass das wiederum Rechtsauffassungen zugrunde legt, wie sie eben im Frontago zum Beispiel ausgebildet worden sind. Mich würde interessieren, fassen wir dieses Wechselrecht, das also offenbar bestanden haben muss, in bestimmtem Umfang und das von allen anerkannt worden sein muss, sonst hätte das System funktioniert, in bestimmten Rechtssammlungen oder meinetwegen in Rechtsentscheidungen. Wir haben ja keine Quellen mehr, zum Beispiel die schönen Gerichtsbücher von Frankfurt sind radikal verbrannt im letzten Weltkrieg. Das war meine Frage. Sì, sì. È necessario di dire alcune parole sul sistema delle fiere tedesche. Sulle fiere tedesche le cose sono un poco differenti delle fiere italiane di Lione, Medina del Capo, eccetera. Come nelle fiere di Campania, le fiere di Francoforte, di Leipzig, di Zurzach, di Linz, di Nördlingen, è un connesso più stretto tra la fiera di mercanzie, di merci e i pagamenti. Dopo le tre settimane della fiera di merci, segue la settimana di pagamenti, di zalbo. Champagne, è fine sì, della Champagne. La tradizione Ara, quando, esatto, no? Sì. Il Champagne cominciava. Ma dopo questo sistema è stato ristretto alla regione germanica oltralpe. Ma nelle regioni di Spagna, Francia, Italia è stato un sviluppo nella direzione delle fiere di cambi, no? Alle fiere di cambi il sistema è altro, ma diritto di cambi è certamente un nucleo di risoluzioni di giurisconsulti che i mercanti sapevano questo nucleo. E il Meder nel suo Handelsbuch del 1550 scrive sì, la lettera di cambio da Venezia a Firenze, si paga dentro di la scadenza, sì. C'è una tradizione particolare e questo è certamente la tradizione dei specialisti nelle lettere di cambi, ma non esisteva un codice. No, ma neanche, e del resto il corpus iuris civilis di Siegel, lei non conosce, no, contiene appunto la regolamentazione è avvenuta in un secondo momento. Era una tradizione particolare, tradizione veneziana, fiorentina, genovese, eccetera. Es gab also eine gewisse mündliche Tradition und eine Kombination mit den Entscheidungen der Juristen, wobei besonders die Bolognese Juristen. Ma anche Anversa aveva i suoi regolamenti. Ja. Jeder Platz hatte seine bestimmten Regeln, die im 15. Jahrhundert bei Konstanz natürlich noch nicht so weit entwickelt waren. Ma anche la forma della cambiale tedesca non dice non c'è l'ordine e c'è la preghiera. Es beliebt der Pisa als möglich als es steht im Freitag und das zu machen. C'è già anche il tono un po' sì. Poi un po' alla volta diventa rigido, fast-prect, eccetera. No, io volevo aggiungere soltanto a quello che diceva, a conferma di quello che diceva Giorgio Dori, per quel tipo di operazione a cui accennava e in effetti noi troviamo continue. Simagas, ma a Milano, continua lagnato di governatore di Milano alla Corona, in quanto i dispacci arrivavano al governatore promettendo da Madrid l'invio di 2000 ducati. Sì. Dopodiché, per effetto del cambio, a Milano arrivavano solo 1600 ducati. E questo era talmente costante, proprio per effetto del cambio, non ma ecco, vediamo un po', il termine ducati ha molti dico significati. Ducata, adesso, insomma, no, questa bisogna vedere di quale moneta si tratta, perché... Potevano essere scudi, non ricordo. No, ma vabbè, dico... Fino ai 1600 calcoliamo il ducato spagnolo a 375 maravedis, cioè... Sì, ma era immaginario. Ma era... Era immaginario, però. Era immaginario, sì, monete di conto, no? Unità di conto, quindi bisogna vedere che cosa si nasconde veramente dietro questa maschera che è la moneta di conto. Per lo meno possiamo sapere qual è la sua impressione, cioè se secondo lei... Scusi, si interrompo. Abbia la cortesia, venga. No, la moneta, lei naturalmente, come anch'io, magari in settori diversi, abbiamo attinto da libri contabili, vero? Lì abbiamo cercato di ricostruire. Lei, quali monete di conto aveva nel caso dei suoi codici? No, ma stava facendo una domanda, sai? A chi ti rivolgi, scusa? No, a Giorgio Doria. A Doria. No, siccome è intervenuto, allora... Scusi lei, perché c'è stata una sovrapposizione, è intervenuto... Come si dice nella mastro? Non è introdotto, ce ne sono due. Sì. Fondamentalmente sono due. 375 maravedis, il ducato spagnolo, che è una moneta di conto, e lo scudo di Marche. Scudo di Marche. Ah, lo scudo di Marche. Sono le due monete. Il problema... il problema è che no, la moneta di conto è una fase di transizione dove guadagniamo, ma guardi, no. Perché non guadagniamo, io faccio un prestito, sul prestito io verso il castello di Milano, in effetti verso il castello di Milano 1600 di quello che è scudi, quello sì. Sua maestà mi restituisce, dopo un anno, tanti reali, tante barre d'argento, eccetera, sì, sì. Che dovrebbero, secondo l'intendimento di sua maestà, valere solo, poniamo, il 12% più di quello che io ho versato al castello di Milano, cioè l'interesse. In realtà si scopre che il valore reale di quelle barre che mi dà sua maestà rispetto a quello che io versato a Castello di Milano, la differenza non è il 12%, è il 30%. La differenza tra 12 e 30, che è il lucro che faccio io a Sentinus, da che cosa l'ho ricavato? L'ho ricavato da una sottovalutazione di una moneta reale e da una sottovalutazione dell'altra. È quello che fa ogni giorno l'ufficio italiano cambia, sì. Quando noi dobbiamo andare all'estero questo... e paghiamo in lire e compriamo, sì, sì. Che so io ma sì, sì, questo... immediatamente l'ufficio italiano cambia, guadagna, ma perché? Perché sottovaluta una moneta, sopravvaluta l'altra, ma delle monete le ha. Beh, questo è intanto un problema che può essere anche estraneo ai cambi con le fiere, vero? Questo può verificarsi anche al di fuori, nelle fiere naturalmente la valutazione che viene data allo scudo di Marche molte volte non dipende dalla volontà di Sua Maestà, ecco, questo è. E lì va a vedere i rapporti diretti che ci sono fra il creditore Augusto e il creditore. No, scusa, scusa Herman, c'era, no, per rispondere, dunque, si alzi, per, no, abbia la cortesia, perché non sente, se no. Può venire, dunque. Siccome io non mi posso mettere al loro livello tecnico, scendano loro al mio, volevo dire semplicemente, un assiento, che era quello di cui stavo parlando, in un assiento, quelli che ho visto io nei contratti di assiento, mi sembra, cioè una parte che riguarda l'interesse da pagarsi e un'altra parte che riguarda invece il cambio, sono distinti, e sono distinti. E volevo chiedere, affermazioni come quelle che ha fatto il professore sono costanti da fare, sono costanti. Però io. Sono costanti, però mi sembra che questi profitti siano un po' troppo grossi, cioè i profitti che la corona dice che fanno i mercanti, a me mi fanno sospettare, sono un po' troppo grossi per credere. Perché sospetta? Perché certe volte dicono che cifre enormi del 20%. Può darsi. Può darsi. In quel periodo. Più l'interesse che avevano stipulato a fare. Sono 30. Cioè sono meno. Sono 30. Allora io volevo chiedere, loro quando vedono questo, non so, era semplicemente quello, sono abbastanza propensi a credere a quelle affermazioni. Ma bisogna vedere. Era solamente questo. Lei allude a quale periodo? Con la metà del 500, la seconda metà del 500, è importante, poteva anche darsi. Poteva anche darsi, era sì. Sono tre parti del negozio, è l'interesse di 12%, è la, come si dice, per il trasferimento, i costi per il trasferimento del campus sono 6 o 10%. E l'altro è la differenza della valuta, e l'altro è il ritardo del pagamento. Interessi di mora. È un gruppo di elementi. E anche il rischio, perché sempre stava un rischio combinato con questo negozio, il rischio di essere ripagato. Il banchiere ha sempre calcolato con questo rischio. Il rischio fu incluso in questo negozio. E per questa causa, quando i Fugger o i genovesi hanno perduto per i bancarotti, dei bancarotti della corona. Non potestano pagare. Non hanno perduto tanto che stava nel calcolo. Questo era la molto difficile. Tanto il mercato, quella è una situazione complessa. Comunque è questo, a prescindere dalle fiere, non hanno responsabilità in questo momento. È questione lì, gli accordi ai margini della. No, perché, scusi, ho dimenticato il suo nome. Ecco, Martelli, perché Martelli si renda conto che questi dati non sono dei dati cervellotici o esagerati, ma che sono effettivi, tenga presente che per la bellezza di 25 anni quella compagnia che mi ho corso di studiare e che operava soltanto in speculazioni cambiali, quindi non effettuava il trasferimento o la sottoscrizione di assientos e poi il trasferimento, soltanto in azione fieristica, cioè come speculazione, commissione, differenza fra cambio d'andata e cambio di ritorno, quindi con quegli aumenti di cui parlava prima. Commissione che era lo 0,33-0,34% e quindi una cosa, soltanto con questo, muovendo i capitali, nel giro di 25 anni ha realizzato mediamente un guadagno sui capitali investiti del 18%. Lei capisce che su 20 anni, la media, con anni addirittura che arrivava al 30%, altri arrivava al 9%. Mediamente è stato sul, adesso non ricordo, non ho qui il mio saggio, mi pare sia sul 16-17-18%. Quindi questo non facendo trasferimenti di ricchezza, quindi non percependo, come diceva il professor Kennebec, non percependo il 12% fisso, non percependo il rimborso per gli interessi di mora, le assicurazioni, solamente facendo un'attività speculativa. Scusi se mi sono intervenuto, c'è musica, aveva chiesto la parola. No, perché prima mi sembra che col professor Doria... No, ma non c'è adesso Doria, non importa, lasciamolo qua. Adesso c'è... No, c'è stata una seconda questione. No, se no facciamo qui un convegno particolare Doria Mandic. No, dopo lo facciamo. Adesso c'è musica. No, ma io, scusi se sono un po' rigido. Ma... Io devo tornare sul problema posto da Doria, perché nell'ultima fase della guerra dei 30 anni, tra il 36 e sì, il 48, il 48. Io ho studiato un massettista napoletano, Bartolomeo D'Aquino, ho studiato anche da Vigna e da Vigna. Allora, proprio in questa fase, in cui appunto l'assettista non gode di tutte quelle condizioni di cui ha parlato prima il professor Kennebec, questo deve necessariamente speculare sui campi. Questo è il problema, cioè la condizione di speculazione sui campi è una condizione necessaria per avere un minimo di massa di capitali da poter mettere in movimento. Allora, solamente per interrompere, sono due sistemi di speculazione, l'assistista e i banchieri di cambi. Sapere qualcosa di più su un eventuale collegamento sarebbe interessante, questo è quello che dico io. Altrimenti non vi spiego perché Bianchini, Ludovico Bianchini, a proposito proprio di Bartolomeo D'Aquino, dice alterava la condizione dei campi del tutto a favor suo. Che cosa significa questo, la condizione dei campi? Questo è il problema. Beh, alterava a favor suo, ma poteva alterarla. C'è un rapporto con una, non dico con una norma, ma comunque con un parametro. Allora qual è il parametro? Il parametro. Questo qui tanto ne usava uno proprio, no? Se alterava, ma vuol dire. Si incideva anche quando si andava a fare l'inventario dei. C'era la manovra personale, diciamo così, che poteva uscire dalla regola, cioè. Cioè non rientrava nel gioco delle fiere, perché era una manovra sua particolare, era un abilissimo operatore che giocava con proprie carte, aveva l'asso nella manica per in qualche modo, perché se questa è la frase che lei ha letto, allude a manovre personali, vero? Ma addirittura tra Napoli e Milano, cioè già nello spostamento, sì, ma a Milano, poteva simulare benissimo per esempio l'importo dato a cambio, no? Invece di dire ho dato a cambio tanto, ho dato a cambio di più, per esempio. Dobbiamo vedere con quali altre clausole contrattuali poteva influire. No. Io penso che una risposta forse la potrà dare il professor Muto quando sarà il suo turno, su questi problemi che sono localizzati un po' nell'Italia meridionale. Io vorrei spostare un momento il problema per mettere a fuoco altri aspetti, non soltanto questa esclusivamente tecnica. Devo dire che la domanda che faccio è per crassa ignoranza, proprio tutti ignoranti. Notevole. questo riferimento all'approvazione, cioè lei diceva appunto le fiere che vengono stabilite, Parma, Roma, una costante è richiedere l'approvazione di Roma, cioè non soltanto l'accordo delle sedi, diciamo così, ma l'accordo con Roma. E poi naturalmente questa corrispondenza con il cardinale e perché l'assenso di Roma crea le condizioni, chiamiamole così, religiose per poter lavorare in santa pace anche con quegli interessi che avrebbero fatto impallidire San Bernardino da Siena, oppure perché la corte di Roma come mercato, centro monetario, mercato, sì, mercato sì, piuttosto consistente. Questo ce l'avevo il dubbio a me, a Rossetti, di capire se era soltanto una benedizione del proibito per no, il il mercato, oppure era perché c'è necessità della ho capito, Roma, no, in Roma così ma studiata allora. No, ecco, il mercato di Roma secondo me non è una grandissima importanza, perché erano tutti investimenti fatti da ecclesiastici, anche in cambi. Ma c'era un fatto morale, ed è quello che il valore che poteva avere per acquietare le coscienze, la parola del Papa. Cioè Roma qui per lei significa Papa, vero? Pontefice, autorità ecclesiastica, ecco. Perché naturalmente il cambio, come anche ricordava proprio il muto, il cambio ha trovato molti oppositori, perché cercando in profondità scorgevano che nascondeva l'interesse. Il mutuo non era più un mutuo condannato apertamente, salvo che fosse un mutuo pubblico, ma diceva è una truffa, è un mascheramento, e quindi se la commissione, il cardinale eccetera approva il cambio, quel cambio si può fare con coscienza tranquilla. Era uno sforzo che il mercante faceva per acquietare un po' la sua anima, non voleva rinunciare al lucro, d'altra parte voleva essere anche in pace con la coscienza. E difatti lì abbiamo avuto non solo una richiesta di approvazione, per esempio Bologna, beh, si capisce, Bologna fa parte, entrava nel dominio papale, ma Bologna chiede e ottiene di essere dichiarata dal Papa piazza di cambi reali. Seguendo nell'esempio, ma senza rivolgersi al Papa, Bergamo a un certo punto diventa, con riconoscimento del Senato veneziano, piazza di cambi reali. Cambi reali nel senso di genuini cambi, effettivi cambi, non sospettabili di usura. Però Genova stessa, è in un periodo difficile, e teneva le fiere a massa, in massa e non a Novi allora, e doveva esserci anche un movimento, perché attraverso il confessionale probabilmente l'autorità ecclesiastica veniva a conoscenza di tutti questi negozi sospetti, e poi ne parlavano, discutevano, e tanto sorgeva il dubbio nello stesso confessore, diceva ma c'è, non c'è, in questa forma, in quest'altra forma c'è la persona distinta, cioè diversa da chi ha prestato il denaro, che interviene nella fiera, e la cambiale è stata emessa, la cambiale è stata in qualche modo, e qui bisognava vedere come, è stata pagata, tutto a posto. Ma altri dicevano no, guardiamo la sostanza delle cose, Tizio ha dato 100 e ha avuto 105, e lì il denaro, ha fruttato denaro, e invece naturalmente pecunia non pari pecuniam. E allora ecco, abbiamo avuto anche delle decisioni, però i genovesi si sono fatti il Senato genovese si è fatto promotore proprio di queste inchieste presso commissioni che hanno risposto no. Non c'è mai stata una risposta netta, mai hanno dichiarato no, questo tipo è permesso. Hanno cercato di giocare con formule diverse presentando casi diversi nel 1626, 1627 e poi ancora più tardi, ma non hanno mai avuto una risposta da Roma per forme di ricorsa o anche di ricorse che non erano ortodosse. Ma io ho appunto cercato di spiegarmi questa lotta fra la coscienza e l'interesse mercantile e mi sono permesso, tanto per chiudere un po', alleggerendo il discorso, mi sono permesso un paragone. Questa lotta, questi tentativi dei mercanti del 600 per giustificare il lucro e salvare la coscienza, in epoche recenti io l'ho avvicinato ai tentativi di giustificare il non parto della donna con i giorni sterili. Cioè, dice, io ho la coscienza a posto perché non ho usato pratiche, però il risultato è quello. E in una nota di quel mio volume, lì mi sono permesso di spiegare questa preoccupazione di superare il sospetto d'usura con questi sotterfugi, come così oggi si cerca con i giorni sterili, salvando la coscienza. È proprio il gioco. O Ghino Naus. No, io volevo dire anche qualche parole su questa questione morale del denaro. Io credo che non è solamente una parola del Papa che fa giusto o ingiusto la circolazione del denaro. Ha tutta una serie di libri, di canonisti e di moralisti su questa questione. Salamanca. Devono giustificare, questa è la questione. Non si giustifica un scambio di una piazza all'altra se non ha una necessità. È il commercio che è un servizio che giustifica moralmente l'scambio. E io non sono esattamente d'accordo con in qualche parte in questo, perché io sono più d'accordo con Doria e in 500, io parlo del 500, che non ha pur scambio di moneta reale, di moneta illusoria, è tutto melangiato. Io mostrerei il prossimo giorno molti documenti in questo senso che ha detto Giorgio. Sì, no, questo sì, che manipola le scambi, le assentista, e le merci non lasciano le mercanti, sono tutti mercanti insieme, assentista insieme. Sì, sì, bene. Per questa questione la morale esige che sia una necessità e un servizio, e giustifica su argomento di danno emergence e pericolo sopra, e rischio e così la possibilità di danno. E a un breve del Papa Pio V in 575 che proibbe scambiare di una alta fede, del fare del cambio psico, che è questa questione che lei ma ha. Ma sì, ma è una questione, guardi, che ha delle una letteratura enorme, un problema che è stato discusso a lungo. e che è rimasto insoluto praticamente, perché nessuno ha potuto dimostrare mai, convincendo l'avversario, che il cambio è un certo tipo di cambio, è conforme ai canoni antiusura. E gli stati stessi sono necessità di ammettere, per esempio anche Venezia dice, beh, fino a un certo punto vediamo un po' come è investito, ma il fatto è, dice, guardiamo la sostanza, uno investe denaro, ricava denaro, quanto? Quanto ne ricava? Ecco, col suo lavoro, con l'industria è possibile, però a prescindere da questa attività che fa fruttare il denaro, il fatto che il tempo solo sia l'elemento, il fattore che determina il plus valore, ecco, è usura. Sì, ecco, io Simon Ruiz ha qualche volta succedeva, è per questo che i genovesi hanno cercato, perché qualcuno aveva dei rimorsi di coscienza e questi rimorsi ostacolavano il traffico normale. Ecco perché hanno cercato di dire, guarda, state tranquilli, vedrete che la parola del Papa, non perché abbia un'autorità, diciamo, si è basato sul razionalismo, sul ragionamento, dice, il Papa che è interprete, diciamo, ultimo, senza appello, si dice, sì, questo tipo di cambio, perché poi non era il cambio nel suo complesso, ma era un tipo di cambio, perché il cambio, tizio, per lo studente, casi classici, lo studente che è di Bologna che si mette d'accordo a Parigi col padre, eccetera, perché si faccia prevenire dal denaro attraverso una cambiale, o il negoziante che paga la merce comperata rilasciando una cambiale, qui il cambio è normale, il cambio è reale. Ha un corso normale, viene pagato alla scadenza, punto e basta. In altri casi no, c'è sospetto. Se è possibile di parlare prima del collega Hildebrand, una parola soltanto. Credo che è necessario dividere lo tutto in un corrente di sviluppo. E la ultima fase di un'arte splendido degli italiani, come l'arte, la pittura, come la letteratura, anche il gioco di cambi è un'arte degli italiani. Grazie. Cioè, questa è l'ultima fase. Che è differente di queste fiere di cambi, è differente della seconda metà del 500, differente di tutto l'altro che è precedente. Ich bin gestern gerügt worden, dass ich Englisch gesprochen habe, deswegen spreche ich Deutsch, aber dann ist es wirklich nicht sicher zu übersetzen, lieber Gellenbend. Ich glaube, diese ganze Diskussion über Moneta illusora, Moneta reale. Ich glaube, sie führt auf einen funktionellen Unterschied zwischen Venedig, Venezia und diesen Zonen. Einen funktionellen Unterschied. Aus der Situation der oberdeutschen Kaufleute und Bankiers ist Venedig der the key point, der Schlüsselpunkt für das gesamte Kapital aus Mittel- und Osteuropa. Warum? Warum nicht auch Genua oder Bisanzon? Der Grund ist einfach. Nach Venedig und von Venedig konnte man zu jedem Tag, selbst an Feiertagen, Wechsel abschließen. Das war überhaupt kein Problem. Es war völlig offen, die Laufzeit war frei vereinbar, die Fälligkeit war frei vereinbar, ungeheuer flexibel. Genua, beziehungsweise Bisenzone, hatte Termine. Das ist ganz was anderes. Termine, an die auch die Wechsel oder die Leute, die dort auftauchten, gebunden waren. Dreimal im Jahr kamen sie zusammen und dann war Genua in meinen Augen, hat eine andere Funktion, die Funktion eines europaweiten Clearing System. Aber nicht eigentlich ein realer Zahlungsort. Das ist die Funktion von Venedig, das ist die Funktion von Frankfurt, das ist die Funktion von Amsterdam. Aber das Clearing, irgendwann muss ja, wenn ich das noch ergänzen darf, ein System von Venedig ist sehr kompliziert, sehr unübersichtlich. Heute werden dort vielleicht 300 Wechsel fällig, morgen 50, übermorgen gar keiner, in der nächsten Woche 120 Wechsel, weil frei vereinbar die Fälligkeit ist. Aber irgendwann in einem so unübersichtlichen System muss ja mal Klarheit geschaffen werden, da muss man mal Bilanzo machen, irgendwann. Und das genau geschah, das ist eine ganz andere Funktion. Das ist eine ganz andere Funktion. Das geschah europaweit, möchte ich fast sagen, in Genua. Aber das sind zwei völlig verschiedene Situationen. Dieses Bilanzieren kann nach einem fiktiven Geld geschehen. Aber das Zahlen, irgendwann muss auch mal gezahlt werden. Irgendwann, man kann einen Wechsel mit einem anderen bezahlen und einen dritten. Und dann kann man Rückwechsel, die Ricorsa nehmen. Das ist alles möglich. Das geht dreimal, das geht viermal, das geht fünfmal. Aber irgendwann, an irgendeinem Punkt, muss mal Cash, muss mal Bar, Geld auf den Tisch. An irgendeiner Stelle. Das kann am zweiten Punkt sein, das kann am vierten, am sechsten, was weiß ich. Das ist eine Kette, ist das. Aber irgendwann muss mal Bargeld auf den Tisch. Und das passiert nie in Genua. Das passiert in Venedig, das passiert, kann passieren in Frankfurt oder wo auch immer, aber nicht in Venedig. Und ich glaube, da wird der funktionelle Unterschied. Nicht in Genua, pardon. Und das ist, glaube ich, der funktionale Unterschied zwischen beiden. Gleichzeitig ist es ein Unterschied, aber es ist keine Gegnerschaft, sondern zwingt zur Zusammenarbeit, denn alle sind in dieses Clearing-System eingespannt und miteinander irgendwie verbunden. Vuol dire che esiste una differenza. Entschuldigung, einen Punkt hatte ich noch. Wenn es Schwierigkeiten gab zwischen Venedig und Genua, dann war es meines Erachtens in erster Linie a question of timing. Weil in Venedig ständig das Geschäft lief, von Tag zu Tag, in Genua aber an Termine gebunden war, das jetzt abzustimmen, war das Problem derjenigen, die in Genua bzw. Bisenzone auftauchten, dass ihre Bücher zu dem Zeitpunkt auch stimmten. Dass die Bilanzus zu dem Zeitpunkt zum Termin Bisenzone ausgeglichen waren. Das war ein Problem der zeitlichen und der Organisation, question of time. Das wollte ich nochmal. Dice che esistono due sistemi, il primo è il sistema delle fiere, no, Genova, Bisenzone, Piacenza, Novi, eccetera, eccetera. Con la moneta illusoria o moneta di fantasia dei banchieri. E l'altro è l'importanza straordinaria della piazza di Venezia, che è come Anversa e più tardi Amsterdam, sempre è una bolsa, una fiera con la possibilità di fare i pagamenti per Oltralpi. La relazione di Venezia con le piazze di Oltralpi è straordinaria. La Domus Mercatorum a Venezia ha avuto una forza formidabile. Sì. E lì i rapporti erano, c'era un po' di ghetto, no? Sì, sì, c'era un po' di ghetto. E lì. Ma a Venezia. Si allontana, comunque io vorrei dire ancora una cosa. Pardon, sì, possiamo essere forse un po' affaticati, però resistiamo ancora un momento. Devo, ecco, devo soltanto dire questo, sì, c'è muto, visto che c'è muto, Antonia, la dolce compagna di muto in questo momento mi segnala. Sì, ho visto. No, vorrei soltanto richiamare l'attenzione sul fatto che sono la 1:12, non più ancora di 10 minuti e vorrei dire qualche parola anch'io, perché poi alla 1 vorrei lasciare la parola al professor Vandruska per la presentazione di un libro. Quindi adesso a questo punto... Io sono 5 minuti. Allora alla 1:05, arriviamo noi per lasciare poi sì. No, ma non deve scappare Giorgio perché è troppo importante. No, i genovesi devono essere sempre alla ribalta, perché sennò allora, dunque, no, mi scuso per un ordine. Ha chiesto il professor Mandis di dare una risposta immediata. No, riguardava Venezia ed era questa, che Venezia, anche con le fiere dei cambi, utilizzava il mercante veneziano, che non è Shylock. Si serviva delle, come dovrebbe risultare dal mio esposto, serviva delle fiere soprattutto per pagare i debiti di mercanzia, non per speculare. Chi è invece che sottraeva denaro alla nobiltà, alla classe mercantile? Era il fiorentino, il quale si faceva dare quattrini, li investiva nei cambi con i genovesi e Venezia dice, vedete, voi aiutate i genovesi così, col nostro denaro, attraverso i fiorentini, perché la classe bancaria e le professionisti sono i fiorentini. Non sono neanche i genovesi, sono soprattutto i fiorentini, i toscani, diciamo anche i lucchesi. Ma e proprio sottraevano i quattrini ai mercanti veneziani investendoli in cambi, parla di, mi sembra, 6 milioni, per esempio la crisi, la bancarotta del 1597. Lì ha portato via la nobiltà veneziana, ai rantier veneziani, ha portato via qualcosa come 6 milioni di ducati. Ma non perché, non direttamente, lì attraverso proprio i fiorentini. Ecco l'odio, il contrasto non solo per Livorno, ma anche per questa attività. Ecco. Muto. Dunque, no, io devo dire, ho molto apprezzato la relazione del professor. Muto. Muto. Sì. Non rimani a muto. È una dichiarazione perché... Più alto. Dunque, no. Il problema però, ecco, vorrei portare l'attenzione, credo che nonostante tutta la buona volontà del professor Mandi, noi continueremo su questi aspetti tecnici a essere poco, non solo d'accordo, ma con una base di reale di conoscenza molto limitata. Però io sono colpito dalle date che sono poste nel titolo e sulle quali vorrei chiamare l'attenzione, 1621 e 1652, perché sono date che in qualche modo sono delle variabili esterne che ci consentono di capire come si esplica questa congiuntura finanziaria nella quale genovesi e le altre nazioni italiane sono dentro in accordo. Cioè questa è la storia di un declino e queste date sono le date che ci aiutano a capire perché la prima è la data di una congiuntura monetaria che colpisce l'Italia intera tra il 1920 e il 1922. Il professor De Maddalena sa meglio di me, i bandi che a Milano questa grossa crisi monetaria, a Napoli tra il 22 e il 23 c'è questa svalutazione della moneta pazzesca. I genovesi sono dentro, fino al collo. Ma che cos'è questo se non il riflesso di queste grosse coniazioni di Veglione che sono in Spagna? Io qui avrei una lista proprio, però, ma non lo dico, sono certo. Quindi la variabile monetaria gioca un ruolo decisivo a partire da quegli anni. L'altra data è quella dell'ennesima bancarotta e più significativa sotto il profilo di metà 600 di Filippo IV. Cioè, bancarotta e quindi situazione del debito pubblico e quindi capacità dei genovesi di manovrare il controllo della domanda e dell'offerta monetaria. E non è un caso che sono soppiantati tra queste 26 e a partire dalla bancarotta 27 in avanti dai portoghesi, che oramai si è spostato il baricentro di questo circuito di controllo della domanda e dell'offerta finanziaria. E è chiaro che nel momento in cui i genovesi non riescono più a controllare i circuiti interni italiani da cui dirigevano le loro manovre, la posizione con la forza contrattuale delle altre nazioni italiane aumenta. Nel 96 i fiorentini cercarono di spostare le fiere, lo dice una corrispondenza di Otrasi Mancas, nel Gran Ducato, ma non ci riuscirono, perché la posizione genovese era ancora molto forte, ma ci riescono a partire dagli anni in cui ci ha detto il professor Manni, proprio perché oramai si è indebolita la loro capacità di manovrare queste il mercato. Non è un tracollo, come c'è una bella frase spagnola che dice Ruiz Martín, se ricordo, cito a me, se deslizzò suavemente, cioè non fu un vero e proprio tracollo, un passaggio, ma ci fu un cambio, come dicono gli spagnoli, un cambio fondamentale di gerarchie economiche e sociali all'interno della Repubblica del Denaro. Grazie molto, mi sembra che possiamo convenire. A questo punto però adesso devo forse, non dico togliere la parola, ma così insomma concludere per poi dare la possibilità al nostro Presidente di presentare questo libro. Dunque, a me pare che si possa fare dare di questa giornata, di questa mattinata, una sintesi in questi termini. Il professor Mandic si è messo di lena e con grande capacità espositiva, bisogna pure riconoscerlo, a cercare di chiarire a noi i giochi delle fiere, le tecniche e i giochi operati in fiera, per cercare di farci comprendere come queste istituzioni potessero costituire un veicolo, un itinerario lungo il quale i capitali più o meno controllati dalle varie nazioni, dico nazioni tra virgolette in questo caso, o colonie forse ancora meglio, potessero circolare. D'altra parte, proprio l'esposizione che Giulio Mandic ha limitato al periodo 1622-1652, come già Giorgio Doria e come adesso ancora in termini più drastici ha giustamente sottolineato Muto, mi sembra che stia a dimostrare come proprio in questo periodo, per una congiuntura che cambia completamente in natura monetaria e non solo monetaria ma anche economica e generale, la crisi, quel famoso biennio 19-21 in cui il punto di svolta, il turning point della cosa, e tutto questo porta a che cosa? Porta a un indebolimento, a una graduale erosione di quella che poteva essere precedentemente considerata la Repubblica Internazionale del Denaro. Mi chiedo però a questo punto, questa Repubblica Internazionale del Denaro, che forse aveva funzionato meglio, comunque che si era presentata con contorni più nitidi, più limpidi precedentemente, era una Repubblica che in effetti anche sotto il profilo tecnico, per quello che gli amici tedeschi soprattutto ci hanno detto, operava in modo diverso nell'ambito latino, nell'ambito mediterraneo e nell'ambito germanico. E qui bisognerebbe forse trovare, ecco, non è che questo seminario si possa dire tutto, ma trovare se non altro l'invito a ripensare, a ripensare in due settori perlomeno la configurazione di questa Repubblica del denaro. I genovesi certamente in questa Repubblica nell'un modo o nell'altro sono sempre presenti alla ribalta. Da questa discussione di quest'oggi è uscito un punto che mi sembra rimanga ancora piuttosto discutibile, nonostante le precisazioni fatte dall'amico, in questo momento mi sfugge il nome, Hildebrand e dagli altri, e cioè la posizione di Venezia e di Genova e il differente rapporto che legava queste due città col mondo interno europeo o nordico, e questo qui sarebbe tutto un tema nuovo da tirar fuori. Rimane però il fatto che attraverso questa valutazione dei giochi tecnici si ricompone al nostro sguardo di storici una individualità, una organizzazione operante e bene operante, poi una organizzazione che si sfalda, e si sfalda soprattutto nel mondo mediterraneo, mettendo in evidenza quindi la presenza ormai di contrasti non più sanabili su delle solidarietà. La solidarietà lascia il posto nel 600 ai dissensi e ai particolarismi. Venezia tenta di difendere le sue posizioni ricorrendo più alla fiera delle merci che non alla fiera dei campi per risolvere i suoi problemi, e così via. Toscana, che non aveva potuto, come diceva giustamente prima, avere le fiere, adesso tenta di averle. Lo sgretolamento dell'impalcatura economica, vi dicendo, porta a questa pluralità, a certi municipalismi, se vogliamo, o regionalismi economici in sede italiana. E quindi tutto il discorso, per esempio, anche di Doria mi va perfettamente bene. Però a questo punto io mi chiedo una cosa: 1682, Ranuccio Farnese a Parma chiede il parere di 7, e qui è implicito il discorso di Muso, chiede il parere di 7 padri della Chiesa, un benedettino, un domenicano, un francescano conventuale, un francescano cappuccino, un gesuita, non mi ricordo più, insomma sono sette, per sapere qual è il loro parere in relazione anche al pensiero pontificio in merito alla liceità dei campi. Perché intende Ranuccio Farnese riaprire le fiere a Piacenza, e lo dice esplicitamente nel suo progetto, studiato da un suo ministro, in questo momento mi sfugge il nome, Calcagni mi pare che sia, di origine bolognese tra l'altro, e che portava anche gli interessi di Bologna qui. Vorrebbe riaprire le fiere di Besanzone, perché dice forse con questo sistema non solo il nostro paese, cioè il Ducato di Parma, ma tutta l'Europa potrà rigravitare, la parola che dice è ridiscendere, usa la parola ridiscendere, e avere il suo baricentro, diremmo oggi, non più al nord, ma al sud, riportando le fiere a Piacenza. Cioè, nella supposizione, nella opinione personale di Ranuccio Farnese, Piacenza potrebbe essere, se si riapre alle fiere, il punto da cui far riemergere un'economia ormai disgregata, quella del mondo latino. A me sembra che sia di un interesse estremo. Lui vuole essere sicuro, però in questo... C'è una risposta ai teologi. Momento, capo. Sto pubblicando queste cose, li sto trascrivendo, non posso perché... È un segreto, eh? No, non è un segreto. Vabbè, posso anticipare questo. 5 su 7 sono per, 2 no. E potete immaginare quali sono i due francescani. Eh no, I due francescani, tutti gli altri, cinque sono tutti favorevoli. Sono tutti favorevoli. Anzi, beh, ma qui sarebbe interessante farmi un discorso su questo, perché per riprendere il discorso Muso-Vasquez de Prada. No, ma ecco, questo io però mi chiedo. Questo mi chiedo e lo chiedo soprattutto a Giorgio Doria, che si nasconde come una lucertola, non so, lucertolone. Sì, sì, il lucertolone, il mio amico lucertolone. Ecco, perché secondo te che cosa vuol dire questo discorso? È un discorso antigenovese? O i genovesi in quel momento non fanno più paura? E forse il duca di Parma pensa lui di essere, con i milanesi che sono a Parma e che spingono, a diventare i nuovi. Dunque l'epoca dell'anno 1682 fallisce, è un tentativo che fallisce. Pardon? No, no, beh, ma qui ci sono anche dietro. Vabbè, no, no, ma chiedo soltanto, perché la cosa mi pare abbastanza curiosa, perché è un'iniziativa economica di un nuovo politico, non è un'iniziativa politica. Ma a te risulta che il fallimento è fallito, eh? Come? Ah sì, e ne ho già parlato di quello. Poi non andrà in porto, non andrà in porto, però l'idea c'era, ed è un'idea politica che si sviluppa sul terreno economico. Poi attenzione, non è un'idea politica soltanto, l'idea politica che si sviluppa sul terreno economico. No, ecco, insomma, io direi di meditare un momentino su questo. È un rigurgito, forse. È un rigurgito. È forse una velleità, e credo che sia così. Però è sintomatico. Comunque io, mi scuso, ma io ringrazio moltissimo ancora il professor Mandic per la sua, direi, stupenda relazione, anche se certamente non facile da capire, e tutti gli interventi. Ich möchte nur aufmerksam machen auf ein Buch, das allerdings schon 12 Jahre alt ist, von dem ich aber annehme, dass es sowohl im deutschen wie im italienischen Sprachraum wenig bekannt ist, obwohl es gerade allerdings weniger mit dem Geldgeschäft als mit dem Handel zwischen Süddeutschland, Nürnberg auf der einen Seite und Venedig auf der anderen Seite zu tun hat. Es ist das älteste italienisch-deutsche Sprachbuch, das aus dem Jahre 1424 vermutlich von einem Meister Georg von Nürnberg stammt, der als Sprachlehrer auch wieder vermutlich in Venedig tätig war, um den venezianischen Kaufleuten Deutsch beizubringen und Deutsch zu lernen. Es gibt zwei etwas unterschiedliche Abschriften davon, eine in der Münchner Staatsbibliothek, eines in der Österreichischen Nationalbibliothek. Und es ist von Oskar Pausch, einem Germanisten, der jetzige Leiter der theaterwissenschaftlichen Abteilung der Nationalbibliothek und früheren Bibliothekar an unserem Institut für österreichische Geschichtsforschung, in den Veröffentlichungen der Historischen Kommission der Akademie der Wissenschaften publiziert worden. Und dieses Buch, wie gesagt 1972, hat immerhin auch einige interessante Dinge über Geldgeschäft und so weiter enthält, das einige Hinweise. Credo, adesso posso dire in italiano, è un libro, il più antico libro italiano-tedesco di lingua, che è una specie di vocabolario, ma nello stesso tempo contiene anche delle frasi fisse, specialmente anche fra mercanti, proprio non i grandi mercanti, ma anche per le cose di minuto e anche per i cambi, auch per den Wechsel. È interessante, è stato pubblicato nel 72 dall'Accademia delle Scienze di Vienna da Oskar Pausch. L'autore è probabilmente un maestro, Giorgio di Norimberga, che ha vicino al fondaco dei tedeschi, ha avuto la sua scuola vicino a San Bartolomeo, sulla piazza di San Bartolomeo. San Bartolomeo, sì. E dall'anno 1424, allora è molto vecchio. Io vi leggo solo poi di questi dialoghi, perché ci sono anche dei dialoghi, per esempio qui Mefesiene ho ben 200 pesa in casa, tren io i Hansen wohl 200 Stück im Haus. Se voi fosse mio padre e non ve vorrei lasciar niente di 4 ducati e mezzo, dass ihr mein Vater wärt, ich möchte es nicht lassen, an 4 Dukaten und ein halben. Tu lo di massa caro, tu bist in cetaia, e lo posso ben aver in altro per meno. Ich mag ihn wohl anderswo leichter haben. E mi piace se le cose con como questo, es ist mir lieb, ob als gut ist als der. El credo che sia ancora miglior do per cento. Il glaube sei noch besser zwin auf ein centenar. Li bocassin, che cosa c'è? Indumenti. Li bocassin, come dis tu la pensa? Di bocassin, vi posto un stuc? Sei ducati e mezzo, 6 ducaten und ein halben. A dirlo vero mi par che tu dighi ogni cosa massa caro. Di Wahrheit zu sagen, mi dunk tu poest, alle dingt c'è teuer. Eccetera. Capite che c'è proprio un cambio, so für Gespräche von Handelsgeschäften. Ich glaube, dass das vielleicht interessiert. Wir haben das Buch natürlich in unserer Bibliothek, es ist klar. Das älteste italienisch-deutsche Sprachbuch muss ja hier sein. Ist das Exemplar der Bibliothek? Das ist das Exemplar der Bibliothek. Ich kann es ja hier lassen. Ich würde gerne den Titel abschreiben. Ja. Vielen Dank. Herzlich.